Gentili collega all'ascolto, convergete tutti su Radio 24. Sono Filippo, sono al KM236, sto andando in direzione Verona. Andate su Radio 24 che c'è Beppe Cruciani, il conduttore pastroncio lì. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Ma non potete iniziare alle 18, che c'è già gran voglia di zanzara. Un ballo! Cruciani, ma non puoi fare la zanzara pure il sabato, che a furia di sentirmi Radio Tube sto diventando impotente? Grazie. Parenzo, tu sei il primo lecchino in assoluto. Tu e tutta l'amici tua giornalistica che siete finiti. E siamo qua, a casa, dopo il lavoro, in terra straniera. Mi faccio un bel cannone ascoltando la zanzara e sogno di farmi questo cannone con voi due e insultarvi perché siete due facce di minchia. Fate la propaganda della droga, siete due delinquenti, pagliacci e imbecilli. Andate a fare il culo. Signor Gasparri, molto bene, molto bene, molto bene, molto bene. Io farei un Gasparri Reload, come sì, si dice, no? Mandiamo, mandiamo solo quello, guarda, davvero, fidati, mandiamo oddio, quello. Oddio, adesso ricomincia con sta storia. E poi basta, poi vabbè, basta. Vabbè ragazzi, allora, siamo a lunedì. Il PD, il PD. No, no, aspetta, prima Gasparri, poi il PD. Ti prometto che qualcosa sul PD dico. No, ti ma farò cosa sentire... non posso dirti. Non... Sì, dimmi, non ti interessa. Non ma frega niente. Nulla, bravo, ma sì, boh, sì. Meno ma di anche niente. Perché, devo dirci... Cioè, mi interessa di più il rogo delle palme invece. Sì, sì, quello. Terribile, anche quello mi interessa molto. Anche su quello andremo. Perché su quello, amico mio. Sì, no. sì, certo. Perché no. Su quello. Salvini, diciamo subito nome e cognome perché mi Salvini, sì. Che commenta e praticamente non dico. Ha istigato, dica, ha istigato la violenza. No, ho detto questo. Commenta il rogo delle palme, lo fa diventare un caso politico la questione delle palme a Milano. Quattro cazzi di palme messe davanti a dove. Beh, questo, amico mio. C'è Salvini, il leader di un partito, il leader di che commenta le palme messe da una multinazionale americana. Vabbè, ma allora... ragazzi, ma no, ma chiudiamo. No, però qui. Devi avere il coraggio di dire, devi avere il coraggio di dire. Ha istigato i violenti che hanno bruciato le palme. No, quello non ha istigato nessuno, ma leggere oggi, ripeto, leggere oggi. Sto ripetendolo perché sto trovando il punto. Sì. Leggere oggi sul Corriere della Sera, ecco qua. L'intervista a Salvini sulle palme, amico mio, ma ragazzi, ma di cosa parliamo? Tu dici alla fine chi se ne frega delle palme, ma quattro palme. No, io difendo le palme tutta la vita con le palme, è benissimo che ci siano le palme in Piazza Duomo. A Parigi davanti al Louvre hanno fatto la piramide, la piramide straordinaria. Ma chi se ne frega? E qualcuno ha detto che c'è l'invasione degli egizi perché hanno fatto la piramide davanti al Louvre. Ma sono tarati in testa sti cazzi di politici. Secondo, e poi chiudo veramente e non parlo più perché sono molto stanco. Dico, e anche molto arrabbiato. Sì. Storace Alemanno. Vabbè, ma ho capito, ma che vuol dire? Che non posso, ma non possono fare un partito, amico, non ho capito. Mio, che si mettono insieme, come mette nitro e glicerina insieme, due moderati così tranquilli, no? Storace Alemanno insieme, nuovo partito, sovranità. Quante cazzi di sovranità ci sono adesso? Che differenza c'è tra loro e la Meloni, ad esempio? Vabbè, ma lasciagli fare tutti i partiti che vogliono. Ma tu puoi fare quello che sovranità. Storace Alemanno insieme. Vabbè, ma perché? No, meraviglioso, benissimo. Va bene, avanti con la sovranità. Sovranità. No, io chiudo qua, guarda, perché è molto allora, bello. Ragazzi, mi hai fatto perdere il punto. Ciao, insomma, grazie, fatto perdere grazie il punto. A chi ci ha seguito. Ci vediamo su che Radio 24. Che volevo dire? Domani. Gasparri. Rimandiamo Gasparri, ragazzi, Gasparri, sulla droga leggera. Dai. Noi parlavamo di droga leggera. Parliamo di legalizzazione, parliamo della vicenda di Lavagna. Questo a un certo punto ha sbroccato perché dice che non l'abbiamo fatto parlare. Noi non facciamo parlare Gasparri. Noi non facciamo parlare Gasparri, capito? Sulla droga leggera. Gasparri Reloaded, vai. L'Olanda. Ma l'Olanda cos'è? Scusami. Siamo andati addosso, ragazzi. No, ti voglio chiedere. Ma l'Olanda per te cos'è? Un paese criminale, l'Olanda? Allora, mi fate parlare, cazzo! Dai, vai, vai! Siamo qua. Faccio come Scarni. No, ma ho capito, ma l'Olanda, ma che faccio qui, ma per una vita, allora, ha fatto, per una vita ha fatto il coso l'Olanda, per una vita ha avuto la droga legale. Allora, sentite ragazzi, vi saluto. Vi siete fatti una canna perché state un po' anzi la ma cocaina, che canna? Ma che cocaina, sì. Ma parli solo te, benissimo. Oh, la trasmissione ma è tua. Chi ha detto? Ma scusami un attimo, perché no, ragazzi, perché mi dici? Adesso parliamo seriamente. Siete due pagliacci che non fate parlare. Ma che c'entra? Io non faccio la spalla dei pagliacci. Ma che cosa c'entra? Ma la smetti con queste cose? Parlando della droga. Siete due delinquenti. Ma che delinquenti? Siamo a favore della legalizzazione noi. Siamo a favore della ma che droga? Ma quali spacciatori? Ma che sei pazzo? Ma che sei pazzo? Noi spacciatori, legalizzazione, ma richiamalo subito. Ma quale spacciatore? Ma che sta scherzando? Pronto? Maurizio, ma che sei impazzito? Ma sei? No, no, ma hai rotti coglioni, non mi stai facendo parlare. Ma siamo ma spacciatori. Ma spacciatori, ci hai detto spacciatori. Siamo spacciatori, hai detto. Ma che sei impazzito? Sì, perché propagandate la droga e quindi ma che propagandate la droga? Ma perché essere a favore perché della legalizzazione? Essere a favore della legalizzazione significa propagandare la droga. Ma che certo, dici? Certo. Ma non è vero, dai. Io sono a favore della legalizzazione. Ma guarda, siccome non fate parlare, non è corretto. Sì, ma non possiamo scontrarci sui dati del Colorado, capisci che è una follia. Negli Stati Uniti, dove è stata introdotta la legalizzazione, sono aumentati i consumi di cannabis e anche verificare. Gli incidenti stradali collegati. Ma è da verificare. Ma e vedi che non fai valore. Ma non è vero. Ma cosa mi chiami a fare? Sei un bugiardo. Ma non è vero questa cosa qua. Ma perché? Un miserabile cialtrone. Ma perché? Ma perché? Ma roba da fare. Richiama. Io adesso... Vabbè ragazzi, andiamo però al PD. Non c'è molto da dire sul Partito Democratico per quello che ci riguarda. Ti faccio però ascoltare, sì, oltre alla cosa ridicola di del signor Emiliano. A me mi sta molto simpatico. Tu il governatore... dici ridicola, ma io non, no, non però lo so, amico mio, no, non è possibile che tu fino a... Ma io non ho capito una cosa, ma sono scissi o no? No, appunto, non si sa, no, non si sa. Io questo non ho capito. Ancora non si sa. Sì, di fatto sì, ma non ufficialmente. Soprattutto non se lo sono detto, no, in faccia. Ma di fatto sì, appunto. Ma non è, Bersaglio non, è non interessa dire nessuno. Ma sono scissi o no? Alla fine? Ma non si capisce. Sì, ecco, forse sì, chi c'è nella scissione, chi non c'è, eccetera. Io direi eccetera. 18 e 42. Su questo dubbio possiamo chiudere qui e lasciare, no, direi, il dubbio ai nostri radioascoltatori? Io ti faccio no, presente due cose che la dicono tutta. Senta. Primo, il modo in cui è stata aperta la manifestazione lì di questi qua di dissidenti, Enrico Rossi, eccetera. Vabbè, questo l'ho sentito anche. Bandiera lì, rossa. Vabbè, bandiera. Cosa c'è? No, senti. Vabbè, senti, cosa no, vuoi? Ma dai, meraviglioso, cosa dai, vuol dire? Su, dai. Ma dai, cosa? Bandiera cosa rossa dire? Nel 2017. Ma che vuol e dire? Come? Allora perché parli di Alemanno e di Storace? È la stessa cosa. È la stessa cosa, dai. Bandiera rossa. Hanno fatto un milione di morti. Hanno fatto un milione di morti. Milioni di morti in Italia. Milioni, no, che c'entra in Italia? Anche in Italia. Anche in Italia, nel mondo. I nazi fascisti, ma non voglio fare i dibattiti storici. I dibattiti storici li faccio con Paolo Mieli io, non con te. Bandiera rossa. I dibattiti storici li faccio con Paolo Mieli, non con te. Con te. Contento il tuo ruolo. Sì, contento con Paolo te. Mieli discuto di storia. Non con te, sovranista peraltro. Ma io sovranista, non sono affatto sovranista. Sovranista alemanniano. Me ne sbatto i coglioni. Non è una pura parolaccia, ma sei uno sovranista. Ma io, ormai. Ma zero proprio. Sovranista guarda. Sei. Mi stanno sui coglioni pure quelli. Guarda. Sovranista sei. E questa festa noi la vogliamo cominciare con un rito che potrà sembrare antico, che però, come vedrete, ha mescolato cose antiche e cose moderne. Cantala anche tu! Dio popolo alla riscossa, bandiera rossa, bandiera... Siamo su Radio 24, vero? Sì. Avanti popolo, fuori riscossa, bandiera rossa, trionferà. Occhio Marchionne! Rivoluzione, rivoluzione! Mamma mia che schifo, avanti ragazzi. Popolo! Mamma! Questa è più debole. Hanno fatto sarà un mix di varie versioni. Comunque l'altra bandiera, aspetta, rossa, fermo. La calmati. E viva il presidente Boccia e la libertà. Gli altri invece, grazie a Boccia che ci garantisce libertà. No, ma gli altri veramente. Invece, la sinistra italiana, gli altri non so chi sono, Fratoianni e questi qua. Sì, ma come chi sono? Fratoianni, ma la sinistra italiana di Fratoianni è bello, amico mio! Di che parliamo? Sì, diciamo la verità. Di cosa parliamo? No, non lo so, però va bene. Allora, va bene, ma chi se ne frega, ognuno fa quello che vuole nella vita. Hanno chiuso invece con... Perché a te piace di più questa idea di Alemannestra, cioè no, due veri moderati. Con Bella Ciao, hanno chiuso con Bella Ciao. Sovranità. Gli altri hanno chiuso con Bella Ciao. Sovranista, amico mio. Quanti sovranisti sono? No, perché questi con Bella Ciao? No, ma va bene questi tutto. Con Bella Ciao? Però sì, ma questo, ma hai ragione. Dai. A sinistra hai ragione, è una fesseria. No, fammi sentire. Dopodiché, dall'altra parte, spiegami tu che differenza c'è tra la signora Meloni e Storace Alemanno? Nessuna. E Salvini, litigi, dimmi una differenza. Personali, litigi una. Personali. Qual è una? E a sinistra è uguale, no? Bella Ciao, vai. Dai. Questo è il fiore. Mamma mia, il partigiano. Adesso la super cazzola di uno degli oppositori a Renzi, che si chiama Stumpo, il tuo amico Stumpo. No, nessuno lo conosce, uno molto grosso, uno molto massiccio, grosso. Dire? Un mio carissimo amico. Appunto, uno pelato Stumpo. Grosso, lo riconoscete ogni tanto in televisione. Ma niente, pelato sì, è grosso. È come dire sì. Tu che sei magro e sporco e puzzi. E dice, ma, se me lo dicono. Ma non è la tua caratteristica principale? No, per inquadrarlo. Dice chi è Cruciani, è un giornalista radiofonico. Ma no, per inquadrarlo. Sporco con i capelli, fa le orge. Fa la pipì nel lavandino e lavora alla radio della Confindustria e istiga dai microfoni della radio di Boccia a fare la pipì nel lavandino. No, ma io non ti vero, presenterei la... così. Però, direi che fa il giornalista Radio 24. Stumpo, no? Stumpo, è l'onorevole che, Stumpo. Quando lo vedete in televisione, è uno grosso, massiccio, mamma mia, pesante. Ma con il pelato. Ma tu sei pesante. Ma con va le tue bene, cose. Ma per carità, va bene, ma non è un'offesa, è un dato di fatto. Beh, se di come non è un'offesa? Dice uno che è pesante, non perché? È una roba. Pesante nel senso che peserà 100 kg, signor Stumpo. Ma se uno dice a te che pesa 100 kg o no, Stumpo? Sì, ma allora, non lo so, non l'ho mai misurato. No, ma senti la supercazzola. Allora, la posizione di quelli che si oppongono a Renzi, per cui non ho nessuna simpatia io per Renzi, ma me ne frego. Ma io senti, capito, sono scissio. No, ma sentilo, ma sentila, capito, ma senti questa cosa, ma dimmi se tu che no, sei però. Esperto. Allora, a tutti lo dico. Capite qualcosa da questa frase che sentirete o no? Senti. È un percorso che fa un segretario di partito, anziché chiudersi dentro una maggioranza, fare prima una piattaforma comune e poi un congresso dove si misurano le leadership, non dire un congresso dove si misurano le opzioni politiche quando in realtà non è così. L'hai capito o non l'hai capito? Ti prego. Sì, no, ho capito, sì. L'hai capito o no? Sì, ho capito. Non nessuno l'ha capito. No, nessuno. Capito, è semplice, però, nessuno l'ha capito. Cioè, nessuno. Dice, bisogna far non bisogna far diventare il congresso una gara di personalismi tra che leader. Cos'è? Perché che cos'è? Ma invece mettere a confronto le diverse opzioni su qual è il futuro della... È la stessa cosa! No, perché c'è una personalizzazione della politica. Traffico, non ne posso più. Quando sento il traffico divento pazzo. La Zanzara. David, ho parlato con il mio gastroenterologo e niente, ha detto che la mia ulcera è colpa tua. È colpa della tua voce, dei tuoi argomenti e quindi ti mando la fattura del mio gastroenterologo, mi raccomando, se puoi farmi un bonifico il prima possibile, ok? Allora ragazzi, ma la storia più incredibile è quella raccontata dalle Iene ieri sera. Un circolo frequentato da omosessuali che fa capo a un'associazione che si chiama Andos. Andro, come Mercù. No, che c'entra Andro? No, quello lo so. Altre cose, Andros, no? Mercù, no, Andro Mercù. Non è Andro Mercù, quello è Andro. Si chiama così l'associazione. Tu dici Andro, androgeno. L'associazione gay si chiama Andro Mercù. No, no, Andos si chiama. Andos, vabbè, circoli di Roma che sono finanziati con i soldi nostri, in parte con i soldi nostri, loro negano naturalmente, e che in realtà tutto hanno... meno che di cose culturali, cioè si occupano di tutto tranne che di cose culturali. Si occupano molto di culi, però si occupano moltissimo di culi, cioè all'interno di questi circoli, all'interno di queste saune, all'interno di questi luoghi ci sono orge, sesso a pagamento, cose di tutti i tipi. Tra per questo ti ha interessato questa materia? No, ma stupendo, perché soprattutto uno dice: ma scusa, perché devo finanziare questi circoli con i soldi nostri? Sì, perché devono finanziare con i soldi non nostri? C'è dubbio, non c'è dubbio. Facessero altre cose con i figli. Con i... A me mi fa impazzire questa cosa del finanziamento ai circoli omosessuali. Questo omosessuali. Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Per carità, alcune cose possono essere anche legittime, fare i telefoni antidiscriminazione, che poi non servono una mazza, i convegni, eccetera, eccetera. Ma perché i miei soldi devono finire, almeno così raccontano le Iene, obiezione, dentro quelle associazioni che poi guadagnano con le tessere e soprattutto poi all'interno si scopa, perché questa è la realtà, all'interno di questi circoli si scopa. E noi siamo andati a verificare di persona. È la prima volta che vengo e volevo capire perché serviva tesserarsi. Serve tesserarsi perché è un locale che non entra neanche la polizia, né donne, né un club che puoi fare quel cazzo che vuoi. Fate anche attività sociali o culturali? Certo, basta aprire il culo, la bocca è culturale. Di cultura c'è solo la minchia. Beh, abbastanza immediato, la cosa più forte di tutte. Questo qua è interpellato, sì, di cultura c'è solo la minchia. Ho sentito. Qual è l'attività culturale in questo circolo, in questa sauna gestita da questa associazione? Sentiamo. Lì si fanno delle attività socio-ricreative, che in realtà scopare. In quanto circolo non dovrebbero fare anche attività culturali? Sì, ogni tanto c'è lo stand lì all'ingresso dell'associazione per l'attività contro l'AIDS, no? Le fa tre volte l'anno, ma è tutta una roba finta per aggirare la legge. Tu fai finta di essere un circolo culturale e crei un'associazione che si chiama e tesseri i soci. Scusa, tutti i locali in Italia in cui entri con questa stessa tessera? È uguale, che non fanno attività culturale, fanno attività cool, cool, culo turale o minculturale, è uguale, per un culo ci vuole una minchia, per una minchia ci vuole un culo o una bocca. Vito? Mi sembra non faccia una grinza. Abbastanza chiaro la cosa, sì. Poi c'era anche tutta una discussione sul Glory Hall, sul famoso Glory Hall. Tu non sai cos'è il Glory Hall? No, non so. No, beh, Davide, dai, su, non puoi dire non sai che cos'è il Glory Hall. Non lo so cos'è. Dai, il Glory Hall è una pratica che poi spiegheremo più avanti. Però la sostanza è questa: è giusto dare soldi pubblici a circoli dove si fanno queste cose qui, Glory Hall, eccetera? Secondo quello che hanno scoperto le Iene, è giusto o no pagare un'associazione perché dovrebbe fare attività culturale contro la discriminazione e poi invece guadagnano sostanzialmente su cose di questo tipo, scopare, Glory Hall, orge, eccetera eccetera, e pare anche prostituzione all'interno. Ma io cosa? Conosco il Glory Day, che è il giorno della gloria. No, c'è anche il Glory Hall, comunque sentiamo. No, quello Day conosco. E oltre alle famigerate affollate Dark Room, si trovano anche giochi di sesso estremo, come il Glory Hall. Glory Hall? Ma che è sto Glory Hall? Te lo sai cos'è il Glory Hall? È quella roba che c'è lì nel corridoio, coi buchi. C'è gente che magari sta là dietro, un cazzo lì nel buco e... Naturalmente Adinolfi va a nozze, perché aveva denunciato questa roba qui tempo fa. Dice le dark room vanno chiuse, sono delle zozzerie. Però Adinolfi, perché vanno chiuse le dark room? Ora, è sbagliato che vanno a finire a queste associazioni e dei soldi pubblici che ormai servono ad aprire questi circoli. Ma perché bisogna chiudere le dark room? Non capisco. Cioè, ognuno fa quello che vuole in un'associazione. Perché dice sono delle zozzerie? No, le dark room sono un modo per vivere la sessualità che ognuno ha. Sì, cioè, per carità. Liberamente. Cioè, tu sei mai andato in una dark room, David? Dice a me. No, non sapevo neanche. Tu non sai che cosa sono le dark room? Non conoscevo neanche l'esistenza, appunto, di questa cosa. Ah, delle dark room. Tu non sai cosa sono le dark room? Non sono mai stato né ho mai frequentato questo mondo. Non conosco veramente. Ma il dark room sarebbe. È un mondo che non conoscevi. No, ma è interessante. Vabbè, quello, dai, è un mondo che non. Sentiamo, dai. Tu sei stato mai in una dark room? Ma non proprio in una dark room, no. Però so che cos'è. Cioè, sì, so cosa che cos'è. Vuol dire? Proprio ci sei stato? O ci sei stato? Non ci no, sei stato. No, le ho viste. Sono poco stato male, lì. Sai. Spettatore. Scandalo alla Zanzara, alla radio di Confindustria, Cruciani confessa. No. Ogni settimana sono in una dark room con un uomo. Non è vero. Abbiamo aggiunto un particolare più. Dai, ma non è vero. E poi domani smentiamo. Chi se ne frega, dai. Intanto abbiamo detto. Le dark room sono zozzerie che vanno chiuse, punto e basta. Ma non è che non ci deve andare neanche un centesimo, quelli con Federico Pieroni. Vanno chiuse, che sono luoghi dove all'ingresso ti danno la bustina di cocaina. Vanno chiuse. Beh, questo è grave però, questo è grave. Signor Adinolfi dice che nelle dark room ti danno la bustina di cocaina. Questo mica è confermato. Ma non è che in tutte le dark room danno la bustina di cocaina. Di no, dai. Vabbè ragazzi, dove andiamo? Ettore Brindisi, vai. Ettore, dimmi. Pronto. Ettore, dai. Sì, niente, Cruciani, io ti volevo dire per quanto riguarda Gaspare, in fin dei conti ha ragione, non su quanto riguarda il fattore della droga, sulla ineducazione. Ma di chi? Di chi? Di chi? Tu tua, che cerchi di mettere in bocca alle persone determinate parole che non vogliono dire questo e quest'altro. Ma Ettore, ma che cavolo stai dicendo? Dai su, ha perso la testa, punto, ha perso la testa, punto e basta, così, dai. È così, è un dato di fatto. Tu chiaramente fai il tuo lavoro, però, però che... è normale che... Cosa è normale? Per te, ma non ma per cosa altri. È normale? Cosa dice è normale? Cosa è normale? Che vuoi cercare di mettere in bocca... Vabbè, Ettore, ti saluto. NAF da Padova, che non è NEF, ma è NAF. Che vuol dire NAF? Come NAF? Ma... Come? Dai, NAF, chi sei? Ciao, come toglie. Chi sei? Non ho capito. Io sono NAF. Napoli ancora a Firenze. Napoli ancora a Firenze, ma di che nazionalità sei? Io sono nazionalità italiana, è un acronimo, un acrostico, no, NAF. Un acronimo di che? Un acronimo di acrostico, cosa? Acronimo, come vuoi chiamarlo? No, acrostico, pseudonimo. Pseudonimo, no, vabbè. Sono cose diverse però. Vabbè, uno pseudonimo, vabbè, lascia perdere. A me sembra uno psicopatico più che altro. Vabbè, vai, NAF, dimmi. Tua sorella è una psicopatica, te serietà. Tua sorella, non dice... Non cominciare. Beh, NAF, no, non a me lei sembra tecnicamente uno psicopatico. Ma tu hai e a tuo papà ha avuto la finestra. Che ha detto? Che ha detto? Questo? Ho detto sì. Che se rompi le palle, che tetta isterica, sì. Vado qua via Scrovegni, da tuo papà, e lo butto solo la finestra. Vai a via degli Scrovegni, da tuo padre, lo butto dalla finestra. Perché abita via degli Scrovegni, tuo padre. No? C'è uno studio legale. Come? Ma non ho capito, Naf, è una minaccia questa non qua. Non importa, che cazzo me ne frega la minaccia. Ma sei squilibrato, ma che hai fatto stasera? Hai preso, È meglio, è meglio denunciarlo però, perché no, questo... ma che basta con queste denunce. In questo caso è meglio. Ma perché? Mona, denuncia tua sorella. Meglio, non c'ho sorelle, è meglio denunciarlo prima, perché è uno squilibrato. Droga. Non cercate di attirare ogni volta quelli che sono parametri e valori universali. Questo è uno squilibrato, capito? Ti posso dire. Siete è uno squilibrato. Ma che cosa vuoi? Ma perché cosa? Non abbiamo capito niente. Perché saremo è mentecatti? Uno squilibrato. Vabbè, d'accordo, voglio capire perché siamo mentecatti, però. Perché siamo mentecatti? Dunque. Allora, se siete mentecatti, perché primo, se ti ricordi, qualche volta raramente... Sì, senti, chiamate qualcuno a fare facciamo una punturina un attimo. Scusa, adesso facciamo venire due signori. Fermo là dove sei. Dove sei? In che via sei a Padova? Come? Che via sei a Padova? Ma non rompere i coglioni. Dai, che via sei a Padova? Che veniamo, facciamo venire due signori in camice bianco con una puntura, con una siringa. Se ci sono ritardato mentale, sì. Sgarbi, toscani e levate qua da Parenzo, non parliamo che te serica di Parenzo. Ritardati mentali, mentecati, sai cosa vuol dire? Sì, sì. Noi, vai, dai, continua, continua. Un po', vai. Perché a noi la qualità ci ha rotto il cazzo! Siamo il top, siamo il top, siamo il top! Ma va su, La Zanzara. Oh, porco maiale, ce l'ho con te oggi, ce l'ho con te proprio, Divo. Disgraziato, Divo. Tanto ciao. Ah, belli. E mi faccio i canne, sì. Le donne dicono sti uomini che tenne le barbe, no? Sa crede che quella è virilità, ma quale virilità? Là ci vuole la nerchie, non la barba, ci vuole la nerchie, che le barbe, quale virilità? Alla fine la prova della verità è sempre la nerchie. Oh, a proposito di Semproni, caro Parenzo, sì, e stasera sì. si parlerà molto di nerchie, come dice Semproni. Davvero? Beh, sì, stiamo parlando di quello che è successo in un circolo di Roma, dove finanziati dallo Stato avvengono delle cose che tu consideri delle cose orripilanti, che io considero normalissime, cioè circoli pagati da noi dove si fanno orge gay e si praticano diverse attività sessuali. Uno può fare tutte le orge che vuole. Ho capito, non con niente. I soldi dello Stato, ma in teoria. Non con altro, i soldi dai, dello Stato. Ma per forza. Appunto. Allora, Semproni, le barzellette di Semproni sono meglio di quelle chi del Semproni, ma ti rendi aspetta, conto? Le ma barzellette. Senti, io della scissione del Partito Democratico, posso dirti la verità, me ne sbatto, anche perché come dici tu, non si è capito. No, ecco, questo è il punto. Quando vero. Decidono di fare la scissione, ce lo comunicano, ci comunicano no, il nome. Ma vedi, c'è lo sgomento di Letta, c'è la posizione di Emiliano, governatore della Letta, Puglia, quello che si era alleato con Berlusconi, tra l'altro, sgomento quando ha fatto alleare il PD con Berlusconi. No, ma dico solo questo, per no, carità, lo di Letta per come si sta consumando il Partito Democratico. Lo sgomento di Letta. C'è Sì, ma perché devi ricalcare le lo parole? Lo sgomento di Letta, da Parigi, la da Parigi. Sì, Sciences Po. Poi c'è Sciences Po. Poi c'è, non si capisce, Emiliano, il governatore della Puglia. Poi sì. Dopo c'è Speranza, ovviamente. Poi c'è sì. L'incognita, cosa farà D'Alema? Sì. E Bersani? Dai, ma la gente, ecco, giustamente tutto prende forconi, dai. Tutto, giustamente vabbè, la gente prende forconi. No, però tutto questo ci fa interrogare. Giustamente, no? Ci fa interrogare. Uno mi scrive, la speranza degli emiliani, senti il gioco di parole, la speranza degli emiliani è che vincano i rossi. Non è male come cosa, eh? Bella, la sì. Speranza degli emiliani è che vincano i rossi. Speranza Emiliano Rossi. Vabbè, per chi non avesse capito. E non credo che qualcuno abbia capito nemmeno adesso, perché alla fine Speranza e Rossi, ma chi cazzo li conosce? Nessuno. Beh, no, Emiliano un po' di più. Emiliano tutti, un po' di anche più. Signore Speranza, si capisce. Signore Emiliano, il quale è andato lì baldanzoso, aveva detto fino a un giorno prima che Renzi era il capo praticamente dei banditi e lui era lo sceriffo, era il capo dei petrolieri, il lobbista, Renzi, una specie di bandito a capo dei banditi. No, bandito, no. Beh, insomma, sì, guarda, una volta ha fatto anche la metafora del bandito, lui è lo sceriffo e loro sono i banditi, ti assicuro, così, a capo della lobby dei petrolieri, è andato lì e ha detto, ha dato 5 a Renzi, cioè praticamente ha calato le braghe e due secondi dopo alle agenzie ha detto facciamo la scissione. Ma guarda che è incredibile, sembra quasi bipolare, cioè una roba di questo tipo, dai. Non lo so, bisogna un attimo capire. Su, ma che capire cosa, che la gente non capisce un cazzo. Capire, la gente non capire. Ha capito nulla, nulla. Sì. Un appello accorato, non costringete con ragionamenti capziosi questa comunità a uscire dal Partito Democratico. Tutto questo è evitabile con un po' di voglia di stare insieme. Ma la cosa più incredibile è che dicono usciamo, ma è colpa vostra, capito? Cioè usciamo di che sì, perché non gli fanno fare il congresso, ma cosa glielo fanno fare il tempo di organizzare, cosa? Deve ma organizzare è una cosa, grande ma... discussione, ma la gente non... la discussione deve essere sempre franca e aperta, ma... l'hai sentito, no? Hai capito? Le due cose che dici, che no, ci vuole una, guarda, discussione, io spero, franca, io ti giuro, ho tanti amici, e ho tanti amici, io spero che il PD arrivi al 15%, ti giuro. Cioè io spero che venga distrutto da questa vicenda, perché il tasso di incomprensibilità che comunicano la gente fuori con queste beghe interne, con queste lotte di potere, perché alla fine sono delle lotte di potere, delle pure lotte di potere, cioè c'è un gruppo che vuole assicurarsi i prossimi posti in Parlamento, questa è la realtà, tutti te lo dicono, quelli che poi certo c'è chi pensa la politica più di sinistra, più di centro, il partito, ma alla fine la lotta tra i gruppi dirigenti è per le poltrone, è per i posti nel prossimo Parlamento, per assicurarsi dei posti al solo al prossimo Parlamento. La realtà è questa, questi qua temono, molti temono di non avere più posto in Parlamento perché non saprebbero fare un cazzo. Va bene, questo è no, un ma altro... è così, la realtà il è questa. Il quotidiano Libero, straordinario, no? Le notizie che ci sono ma che su c'è Libero. Su Libero, avanti, che c'è? Bene, notizia, epitaffio. E Giacomo dice, ma di che sta parlando? Foto di Gianfranco Fini, sì. Aperte virgolette, sì. Di cosa è malato Fini? Di che chiuse cosa? Chiuse virgolette, e spunta pure la sua lapide. Tu apri, ci cazzo, madonna, poveretta, sarà che malato, succede? No? Aldo Grasso, Fini è gravemente malato di cognatite. Cioè, capito? Adinolfi contro le Dark Room, contro tutto, dai, ti ripeto. Fatemi sentire Adinolfi che si quanto scatena. Quanto ti piace adesso Dark Room? Adinolfi. Quanto ti piace? No, è stupendo, vai. Perché certo c'è il caso di Andos, che è clamoroso, no? Un'associazione finta che fa in realtà prostituzione omosessuale, in cui tu vai nel circolo dell'Andos, vai lì, ti fanno il massaggio e come si vede nel servizio delle Iene, alla fine del massaggio dicono per 50 euro ti faccio una pompa, per 75 euro facciamo una scopata omosessuale. Vabbè, il fatto che sia omosessuale, Adino, non è che sia un problema, che sia omosessuale o sia eterosessuale non cambia. Comunque Adinolfi qualche volta è anche molto crudo nelle sue descrizioni, no? Cioè, sentiamo, sì, ancora, no, beh, sentiamo ancora Adinolfi. È diretto, mi pare, senza giri di parole. Sì. E guarda caso, il 4 novembre assegna 55.560 euro ai circoletti dove si fa il massaggio omosessuale con prostituzione gay, dove si fa la sauna omosessuale, dove si fa la dark room, la glory hall o la sala per orge. Prima la famiglia, poi i porci. Cosa dobbiamo avere di più per poter reagire, rispondere, dire che adesso prima la famiglia e poi questi porci? Prima la famiglia, prima le esigenze di chi non ce la fa, prima le cose vere, non le leggi per le stronzate. Prima la famiglia, poi i porci. Ma da dove pontifica? Ma da dove è che pontifica? Facebook, Facebook, Facebook. Ah, da Facebook. Però io dico pensavo una cosa. Radio Maria, non mi sembrava appunto un linguaggio da Radio Maria. Purtroppo no, vedi, c'è il doppio linguaggio. Va a Radio Maria a fare la trasmissione e parla in maniera molto forbita, naturalmente, poi su Facebook dice scopate, orge, pompini, porci, eccetera. Però io dico una cosa, caro Adinolf, posso anche essere d'accordo con te sul fatto che non vanno dati i soldi pubblici per la prostituzione e per le dark room. Non vedo perché un circolo che fa le dark room deve prendessero i soldi da chi vuole fare le dark room, da chi vuole andare nel dark room, cosa assolutamente, come dire, anche se vogliamo legittima, per forse carità, anche istruttiva, forse ma anche adesso, formativa. Questo non direi la dark adesso, room, però... le glory hall, credo che rappresentino anche dei passi in avanti nella civiltà, cioè la liberalizzazione sessuale, la libertà sessuale. No, non che mi convinci, non vabbè, mi convinci. D'accordo, ma però non con i soldi dello Stato, amico mio, non con i soldi dello Stato. Allora, lo scazzo a distanza tra Salvini e Bendolo, vabbè, non niente di nuovo, però Salvini dice una cosa: bisogna fare una pulizia di massa via per via. Pazzesco, questo è pazzesco. Pulizia di massa via per questo via. È, vabbè, questo ma lui è vergognoso. È una cosa che ha sempre detto, no, dai, ma... su. Ah, vabbè. Tu ti rendi conto, tu ormai dai tutto per scontato. Ma pulizia, la pulizia di massa. C'è un dai. Leader politico che parla con un linguaggio degli anni 30. Ma sì, ragazzi. Ma allora cose. Ma io ho capito che ormai la soglia è alzata, ormai non c'è più. No, no, ormai non ci si indigna più per nulla. Cosa deve dire ancora di più? Vabbè, pulizia, comunque, di massa. La pulizia di no, massa. No, ma ha detto strada per strada, casa per casa. Vabbè, è un rastrellamento, dai, per gli irregolari, sta dicendo. Normale. Per pulizia i delinquenti, per i delinquenti, no. Credo, non per la gente rastrellata. Queste parole dovrebbero essere bandite dal gergo politico. La pulizia bandite, di massa. Sì, vabbè, sentiamo, certo, dai, sentiamo. Fa orrore, fa orrore. Sentiamo. C'è bisogno di una pulizia di massa anche in Italia, via per via, quartiere per quartiere, piazza per piazza, con le maniere forti se serve. Non era chiarissimo, signor Salvini. No, gioca sull'equivoco. Si poteva al solito intendere anche il rastrellamento. Voleva fare intendere esattamente quello. Salvo poi con i carri. Salvo poi se gli dai del razzista, dice: no, io razzista. Ma io dicevo gli irregolari del cazzo. Salvo così fa così, perché è così uguale, no? Gli dici: no, ma scusi, però lei ha usato delle parole. No, ma stavo scherzando, dai. No, non dice mai stavo scherzando. Ma no, ma come è un razzista? Io razzista, ma che razzista? Basta che guardate Quinta Colonna, la gente com'è arrabbiata. Dici, che c'entra Quinta Colonna? Vendola. Cosa c'entra Quinta Colonna? Vendola. E poi un fascista che invoca la pulizia etnica nei confronti di quelli che fuggono dalle guerre e dalla miseria è veramente protagonista di un regresso, di un degrado anche nelle parole. Salvini è la vergogna del nostro paese. La notizia è che è ricicciato Vendola a parlare, eh? Ricicciato Vendola. No, vabbè, il segretario del partito è ricicciato Vendola. Fra quegli anni. Vabbè, chi se ne frega adesso, francamente. Dove andiamo? Nazareno da Milano. Signor Nazareno da Milano, avanti. Esatto, buonasera a entrambi. Buonasera. Sì, dimmi, Nazareno, dimmi. Volevo cortesemente parlare con Parenzo. Sì, Parenzo è qui. Sì, qui, parlaci ecco, pure. Ecco, dato che lei, signor Parenzo, si arrizza il pelo ogni volta che sente a parlare di fascisti, no? Sì, sì. Ecco, sì, l'altro ieri, lì nell'assemblea del PD sono stati sventolati bandiere rosse, falso martello. Sì, non era proprio del PD, erano gli altri. Comunque, come vabbè, lei sa, non è contro la legge, che io anzi. Speravo che prendesse la distanza. Sì, lei, come lei sa, la Costituzione è firmata da un comunista, come lei sa, no? Ecco, vede. Ecco, bravo, capito. Quindi, allora, insomma, Nazareno, allora, che allora vuoi dire? Se l'avesse fermato un deficiente, allora noi dovevamo dar retto a un povero deficiente. Scusi, no, allora, come lei sa, i comunisti hanno firmato la Costituzione italiana. Lei come considera i comunisti? Quelli che cantavano bandiera rossa, capito? Le considero, sì, ecco, come considera i comunisti? Questa domanda, le considero uguali, se non peggio, ai fascisti. Perché, allora, vada a vedere chi è Umberto Terracini. Vabbè, chi se ne frega. No, no, vada a vederlo intanto. Quel comunista. Assassini ti considera. Sì. Ecco, Stalin, poi Mao. Stalin. Siamo in Italia, però. Loro, Qui siamo allora, in Italia. Ecco, lei ha mai dire... sentito parlare di Terracini, oh, Umberto? Ha letto il libro Il sangue degli innocenti, dato che prima cantava le canzoni partigiane. Lei ha letto quel libro? No, non l'ha letto perché di Giampaolo Pansa non è a conoscenza degli ammazzamenti. Il libro di Giampaolo Pansa? Come no? Tutti l'ho letto. Ragazzi, non è un dibattito di storia, ma avete rotto i coglioni tutti e due, fermi. Bravo, appunto, mandalo a quel paese. E adesso la borsa. Io vorrei vorrebbe un'Europa in cui le persone non hanno paura di perdere la propria nazionalità o le ricchezze del loro paese. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Allora, riguardo le mutande, perché calcolare i giorni, striscia non striscia, basta non portarle, è la cosa migliore. Questa donna, questa donna, vabbè, le donne che non mettono le mutande, ragazzi, è il top assoluto. La gente che chiama, top assoluto, ragazzi. Una donna, cioè, dovreste fidanzarvi con una che non porta le mutande. Io l'ho fatto più volte. Una che non porta le mutande è sicuramente una al top assoluto. Assoluto, anche un po' sporca se vuoi ogni tanto, però una mamma che non porta le mutande, ragazzi, è il top, è il top. Cioè pensa che scopri che non porta le mutande, anche se ogni tanto la mutandina, la mutandina quella leggera non è male. Ma in tutto questo si inserisce, caro David, adesso chissà quanti pipparoli chiameranno. No, nessun anche pipparolo. Mia moglie si chiameranno da dei sporcaccioni. Sì, in tutto questo si inserisce la guerra personale che ci ha dichiarato, non si capisce perché, francamente, il signor Mauro da Mantova, il quale a un certo punto, geloso del suo dirimpettaio Donato da Varese. E se avesse bruciato lui la palma a Milano? Tu dici, Te lo immagini? Sai cos'è? Sai che l'ha messa quella palma? Sai che sta da Benedetti? E gli ha dato fuoco, così, ti immagini? Ti immagini è stato lui? Devo dire che sarebbe. Sarebbe anche un colpo di genio. Lo renderebbe a suo nobile, modo un ardito, come sei gli arditi, quei gesti un po' d'annunziani. Uno dici tante parole e niente fatti, no? Invece, in questo caso. Invece sarebbe, come dire, non dico auspicabile, no, perché per me chi ha fatto no. quella roba è da prendere e sbattere in galera. Pure secondo me. Invece sento molto buonismo. Si dichiari. I vigili che dicono venga da noi, ma che vengano lì, va cercato, rintracciato, accusato, perché si può pensare tutto delle palme, io lo trovo una cosa orribile esteticamente, ma se tu la bruci sei da prendere, ragazzi, da condannare, adesso galera, non lo so, no, perché, galera, comunque, no, però, ragazzi, condannare e preso a calci in culo mille volte. Ma dai, come tu. Se avessi distrutto un bene pubblico, uguale, cioè una identico, cosa, dai, uguale, identico, scusa, uguale, identico. Mauro da Mantova contro di noi, ragazzi. Dov'era Mauro da Mantova l'altra notte? Da verificare. Da Mantova a Milano? Caro Tamaro coglione Cruciani e l'altro coglione ebreo di merda di Parenzo, questo sarà l'ultimo WhatsApp che vi mando, perché no? Voi non fate audience con i miei WhatsApp, col cazzo che vi fate. È l'ultimo questo. 17 febbraio 2017. Ti ricordo che a me il 17 non porta rogna, ma agli altri, quando mi metto a scontrarmi, sì, il 17 porta rogna, perché io gliele mando le rogne e tu a me non mi censuri, garantito al 300%. Poi continua Mauro da Mantova contro di noi, pensa che noi facciamo audience con la sua voce. Wow, il leone Belvamen ha tirato fuori gli artigli e i denti e ora non lo ferma più nessuno, perché io sono io e gli altri non sono un cazzo! Beh, devo dire che. Scusami, chi è Belvamen? È lui, soprannominato Belvamen. Ho capito. Nelle sue chat erotiche e non erotiche. Sì. Viene soprannominato Belvamen. Io lo trovo straordinario. D'accordo. Io trovo straordinario Maurone. Però non mi devi venire a rompere i coglioni, perché se rompi i coglioni a me. Amico mio. Poi sei numero uno nel tuo. Come dire, nella tua specie, nel tuo genere. La tua follia, direi io. Insiste ancora, Mauro. Io non ho bisogno che voi facciate un personaggio di me. Io lo sono da quando sono nato un personaggio. Io ho fatto tutti i primati. Io in un anno e mezzo ho sfasciato 2 tricicli di lamiera. Andavo forte come il vento, facevo le cure, mi spaccavo le ginocchia ma non cedevo. Continuavo ad andare sempre più forte, perché la velocità ce l'avevo nel sangue. Io, mi spiace per voi due fallitelle, ma io sono un vincente. Su quasi tutti i campi, non tutti, ma su quasi tutti faccio sempre la differenza. differenza, sempre, sempre e comunque. Io ero già un personaggio nel 2006-2007, tutti ascoltavano perché aspettavano che io dicessi qualcosa, ma quando lo dicevo era come una bomba, era come una granata, e io lì ero già un personaggio. Poi mollato lui, ho passato il mio personaggio a voi, vi ho donato il mio, donato non da Varese, io vi ho donato il mio personaggio a voi, e voi ci avete guadagnato l'audience, ma come ve l'ho donato ve lo tolgo, così imparate a stare al mondo e imparate a dare rispetto a chi vi ha tirato su, coglioni. No, qui c'è un equivoco, caro Parezzo, qui c'è anche un po' di mitomania, ma la mitomania fa parte anche dei, come dire, di un personaggio come Maurone. Mi ha tirato su Mauro da Mantova, no ragazzi, però c'è una contraddizione in termini qui. Poi c'è questo derby con quell'altro genio, no, della, no, l'altro non me lo toccare, della... non mi toccare l'altro, Donato da Varese, non mi quell'altro toccare, genio lì, vero? Non mi toccare, sai che c'è, non mi toccare, non mi toccare. Ma perché non si parlano tra Donato, spiegami un attimo, tra Donato da Varese, no, c'è del conflitto, cioè, c'è diciamolo del conflitto. Così, tra idioti non si parlano, c'è mettiamola, del conflitto. Mettiamola così, c'è strano perché in genere gli imbecilli vanno in coppia, i coglioni, ma è, quindi è curioso, cioè non si parlano, no, tra ragazzi, razzisti, non si parlano, che ti devo, cioè, dire? Tra razzistelli non si parlano. Non si parlano, non si parlano. Vabbè, tra succede. Il reduce della Repubblica Sociale Italiana e il reduce del Terzo Reich non c'è dialogo. No, non succede, come non c'è, non dialogo, c'è dialogo tra Storace e la Meloni, uguale, insomma. No, vabbè, adesso. Ah, più o meno, dai. Miserabile, io se vengo lì, bastano 30 secondi che ti polverizzo con il mio genio. Pezzo di merda! Non si parlano, dici, tra. No, non credo. Okay. Giuseppe dalla provincia di Chieti, dai. Sai cosa potessi fare? Potessi chiamarle insieme. È un'idea. Me l'hanno detto molti, sì. Giuseppe dalla provincia. Sì, dimmi, oddio, mamma mia. Il è tornato l'amico. Come sei questo? Caduto in basso. È tornato. Oh, mamma mia. È tornato. Ma chi è, Giuseppe da Chieti? Sì, sì, sì, sì, è tornato questo. Avanti. Allora. Da super puttaniere. Da super puttaniere. Super raccomandato. Ah, puttaniere sei tu, raccomandato sono io. A spacciatore. Sì. Chi è spacciatore? Come sei caduto in basso? Ma spacciatore di cosa? Che non ho mai preso una droga in mano in vita mia. Ogni tanto. Dov'è che spacci, Cruciano? Vengo a Milano mo a trovare mia figlia. Sì, ma che tua figlia è a Milano. Tua figlia è a Milano, sì. Ma non l'hanno ancora interdetta, no? A causa del padre, no? No. Non l'hanno ancora cacciata. Non l'hanno ancora cacciata. Stai tranquillo, perché da oggi in poi ti darò del tuo. Sì. Come quel maiale che c'hai a fianco, che ti fa da zerbino, sì, con la faccia da pappagallo nano, sì, il cocainomane. Cocainomane, sì. Questo è grave. L'ultima cosa che hai detto, io te l'ho sempre detto. Cioè, tu, ma sai che questa zerbino, cosa che hai detto ultima è molto grave. Che c'è? Dato del cocainomane. Vabbè, ok, e ho capito. Mi mando uno sputo volante in faccia. Sì, sputa di faccia. Se lo incontro, gli sputa in faccia. Ma perché? Che t'ha fatto? Che cosa ha detto? Cosa ha fatto? Perché lui se ne deve andare dall'Italia. Ma perché deve andare via dall'Italia? Se abita in Italia, è italiano. È un scusa. Comunista di merda. Ma cosa d'accordo, c'entra? D'accordo, ma cosa c'entra? Cosa c'entra? Lui è un anti-italiano. Sì, se ne vada, in mezzo ai suoi amici maomettani. Maomettani. Ho capito. Giuseppe, tu durante il giorno. Ma la pensione di invalidità di accompagnamento gliel'hanno data, vero? Sì. La pensione di accompagnamento, togliti quel peso proprio dalle palle. No, volevo sapere se, se ne ha diritto a lei, però pienamente alla pensione di invalidità, mi pare. No, ce l'hai diritto tu. Cocainomane. Ancora questo? Ma perché cocainomane? Non ho capito. Questo è grave. Ma si vede dalla faccia, cioè gli occhi. Cioè lui ma di solito lo dicono a me cocainomane. Al minuto 19 e 42. E mo' ha cominciato a spacciare. Ma io no, ma perché ha detto Gasparri che siamo degli spacciatori? Non ho capito. Gasparri c'ha ragione, c'ha perfettamente ragione. Sì, certo, siamo degli spacciatori di droga, certo. Siccome vogliamo ogni credibilità di Gasparri. Ma quando ti danno quelle, cioè sì, quanti danno a grammo? Cioè, come funziona? Non lo so, lo sai tu, e io penso che tu sappia soprattutto quanto danno al grammo di sostanze, pilloline per tenerti sì, calmo, che è una cosa, no, per carità, non è un delitto, per carità, non è un delitto. Ma tu hai figli? Hai figli? Giuseppe ha una figlia. Due figli e sanno che tu chiami la Zanzara questi figli o no? È certamente lo sanno, e quando torni a casa si vergognano, no. Laureata allo IULM è come non essere laureati, praticamente. Ma non si vergognano, no, rispetto alla laurea che c'hai tu, cioè la laurea della IULM. Ma non si vergognano, la... secondo me si nascondono. La IULM, uno che come dice, come si chiama di cognome? Giuseppe Dacchieti, ma non lo so, no, il cognome non te lo dico in privato. Dillo in pubblico se hai coraggio, come ti chiami? No, te lo dico in privato. Ma i tuoi figli sanno che chiami alla Zanzara dicendo delle puttanate pazzesche o no? Puttanate. puttanate. Le puttanate le dici tu, Cruciani. Ma noi ci siamo pagati però per le puttanate, è diversa la cosa. Lo so che difatti state portando cosa? Radio 24 là allo sprofondo, guarda. Sì, allo sprofondo. Sì, allo sprofondo. E 200 al maiale. Senti, che te serve? Hashish, marijuana, che te serve? Che ti serve? Hashish, marijuana, guarda, che ti serve? A quanto al grammo, Cruciani? Non lo so, guarda, 30, 35, no, anzi un po' di più, 100, 150 grammi, non lo so, non le conosco i prezzi purtroppo. Cruciani, questa è una buona inchiesta da fare. Andrea da Piacenza, vai. Ciao, io sono un po' meno vivace di quel signore lì, di solito sono anche abbastanza d'accordo con Parenzo, oggi però ha toppato, ragazzi. Perché? Dai. Che ha fatto? Ma non si può fare la hit parade, effettivamente i comunisti hanno fatto più morti dei fascisti, cosa vuol dire? Giustifichiamo i nazisti con i morti dei comunisti, che è vero? No, però... Ragazzi, i comunisti non hanno liberato l'Italia e soprattutto dobbiamo smetterla di identificare la resistenza con i comunisti. Vabbè ragazzi, però non me ne frega niente di fare queste discussioni. Ti posso dire che non me ne frega nulla? Lo so, ma anche perché annoia, già sono dalla storia. Enrico da Reggio Calabria, sappiamo. Io sono incazzato peggio di te. I comunisti sono comunismo per me, figurati. A me lo dico, ha fatto una marea di morti della storia di questo paese. Enrico da Reggio Calabria, sì. Certo, mi senti? Sotto il tallone dell'Unione Sovietica. Enrico, vai. Dottor Cruciani, mi sentite? Firmata la Costituzione. Chi se ne frega, Enrico, scritta. Mi senti, dottor Cruciani? Sì, ti sento, Enrico, ti sento. Volevo dire una cosa, quel signore di Mantova, come si chiama? Mauro? Mauro, sì, Mauro. Ma mi sembra che c'è un tumore alla gola, che non parlava bene. No, questo non è buono, dai, su. Si potrebbe fare un bagno di carne. No, però che c'è? Calabrese. Ma perché calabrese, questo che c'entra? Non si può scherzare. No, non si può scherzare, vero, però nel senso, se ha problemi alla gola... con un po' di canna calabrese, erba indica calabrese, se non leva naturale, cioè non ho capito, ma la marijuana in Calabria ha qualcosa di particolare, non ho capito, è chiaro, è naturale, è chiaro. Ma chi l'ha detto? Chi l'ha detto? Come che l'ha detto? I botanici, te sì. Lo dico io che l'ho provato, c'è quella giamaicana che è la nostra. Comunque mi ha scritto un amico che mi dice comunque la marijuana va da 10 a 20 al grammo, se ti serve saperlo. No, ma per l'amor di Dio, così mi ha scritto il signor Roberto, non dirò il cognome perché non è uno stimato professionista, ma il signor Roberto mi scrive comunque la marijuana va da 10 a 20 al grammo, se ti serve saperlo. Posso parlare? Sì, Enrico, dimmi, non ho capito perché in Calabria cosa succede? Producete la migliore marijuana. Anche il cognome vuoi? Vabbè, Roberto De Angelis. Roberto De Angelis, vuoi dica il cognome? Lorenzo, mi fa parlare, allora mi metti sta 10. Sì. Dai Enrico, dimmi. Allora, la marijuana della Calabria è una delle marijuane più belle che esistono. Ma perché dovrebbe essere una delle migliori che esistono? Come cresce nell'Astromonte, alto, ha il sole 7 mesi l'anno, ha tutto, quindi quando cresce, anche quando è sottoterra, morfologicamente il terreno della Calabria. La marijuana calabrese è la migliore del mondo. Ma l'ha esportate pure o no? L'ha esportata? La diffondete? Io ho fatto la prima festa dell'erba in Italia, prima che si faceva in Olanda, l'abbiamo fatto noi a Pizzo nel 1979. Quindi l'erba calabrese, oltre che diciamo non gratta alla gola, non ti irrita la gola, ti dà quella sensazione che ti dico come che ti mangi un arancio bello calabrese. Un arancio bello calabrese. Vabbè. Buona serata, signor Cruciani. Ciao. Grazie molte. Allora ragazzi, uno dei circoli interessati dalla storia delle Iene, uno dei circoli, abbiamo fatto una telefonatina per capire cosa avviene là dentro. Sesso a pagamento, prostituzione, scopate, finanziati dallo Stato, come dicono le Iene? Sentiamo. Mediterraneo, buonasera. Sì, buonasera. Senta, volevo chiedere se quali servizi offrite, se ci vuole il tesseramento per l'iscrizione. Sì, ci vuole adesso, bisogna essere tesserati all'anno. Quanto viene a costare? 17 euro la tessera annua e 13 euro l'ingresso, tutto sarebbe 30 euro. Sì, senta, a me interessa onestamente una cosa, i dark room, sì. Si fa sesso sì, nei dark room? Sì. Dark room sono a posto, stanno lì. Appunto, quindi allora faccio l'ingresso e posso usufruire del dark room, ce ne sono due. Senta, e oltre al dark room di sessuale, stiamo parlando di gay, giusto? Esatto. Ah, ecco. Il servizio massaggi in che cosa consiste? Voglio dire, c'è sesso pure lì? Spero. Io non posso specificare queste cose per telefono, ma non lo devo mandare. Beh, allora ho capito dalla risposta che si fa anche sesso lì, insomma. No? Ok. Però se oltre al dark room faccio, che ne so, un massaggio, resta sempre 30 euro? Il massaggio a parte, si paga 22 euro di massaggio, mezz'ora. Va bene, è stato molto gentile. Di nulla. Grazie, grazie, arrivederci. Caro David, è evidente che là tra massaggi, prostituzione non si capisce niente. Sicuramente la prostituzione viene esercitata. Beh, in qualcuno sembra di questi sì, luoghi. Telefonando lo confermo. Però giovedì su Rai 2 c'è un tizio che è stato alle Iene tanti anni, che conduce una trasmissione, fa ancora i servizi, ancora non capisco come non si è rotto il cazzo. Beh, ancora. Enrico Lucci, ciao Enrico, come stai? Bene, ciao compagno. Bene. Ciao Matti. Ciao, come andiamo? Come andiamo? Ma bene, come vuoi che ci ha detto così bene nella vita, che se dovevamo lamentare? Ma no, appunto, bravo, che se ce frega. L'unica che cosa divertente che è successa in questi giorni di rottura dei coglioni della roba del PD è stata l'apparizione a un certo punto, sì, di Enrico, certo, davanti a Bersani, davanti ad altri, cioè, ti è vestito come, ho capito che era vedremo Stalin. Quando, domani sera, quando no, vediamo giovedì, vediamo. Ah, giovedì sera vi faccio vedere tutto. Niente, mi sono vestito. Famo la marchetta fatta bene, però. Famo la marchetta sì, fatta bene. Allora, giovedì, allora, diciamolo, giovedì. 1.20, esatto, su Rai 2 Nemo, sì, Nemo escluso. Conduce Lucci insieme a una, a non Valentina, una, Petrini, a Valentina Petrini, che è una bravissima giornalista, brava, appunto, che conosco anch'io bene, coraggiosa e bellissima. Allora ripetiamo ancora, non esagerate. Ripetiamo ancora, no, giovedì sera. No, ripetiamo, l'ho ripetita Juvent. Allora, usiamo la radio della Confindustria per dire solo questo. Esatto, giovedì sera, giovedì sera, oh, sì, alle 21.20, sì, sì, su sì, Rai 2 c'è, sì, Nemo, mi raccomando, okay. Nemo escluso. Nessuno e escluso. Lì vedrete, sì, una cosa incredibile che incredibile, sto organizzando, perché pazzesco, tutta certo, la storia, vestito da Stalin non finisce qua. Bene, non finisce. Allora io dico una cosa. Vabbè, allora grazie, continuerà. Chiudiamo qui a questo bisogna punto, capire, no? Bisogna sì, sapere che sì, Lucci è un vecchio comunista, però in realtà. No. Sì, come no, come no. Corrente Bordiga. Lucci sta soffrendo, Enrico, io credo che tu stia soffrendo come un sì, cane per questa roba qua, oppure sei diventato ormai cinico, non te ne frega un cazzo manco delle divisioni del PD. No, ma a me, io sono interessato a tutto, di tutto quello che succede, però con un certo distacco. Ah, ormai con un certo distacco. Una volta eri appassionato delle cose del PC. No, ma sono appassionatissimo ugualmente, sono sempre appassionato. Cioè tu sei appassionata ad Inolfi come al PC uguale? Non riesci proprio a... cioè questi, pure uno super appassionato come me, sono riusciti a non farlo appassionare più. Roba assurda, ma se sono scissi o no, Enrico? Secondo come te? Se alla fine... No, non ho capito. Ma se sono scissi o no? Io non ho capito. Ma chi ha capito? Ma, esatto, guarda, io da stamattina non vedo notizie. Ma voi che sapete? Se è finita sta pantomima no, o no? No, non lo so. Ancora non si capisce niente. Ancora non si capisce il cazzo. No, però la cosa che vi volevo dire, volete lo scoop? Sentiamo, sì. Allora, guardate, io giovedì sera mi candido ufficialmente a segretario del Partito Democratico. Oh, ma davvero? Bene, questo è buonissimo. Io penso ma che abbia... Ma non sto scherzando, sul serio, sarà una candidatura ufficiale che presenterò come segretario del Partito Democratico e non solo, farò una proposta straordinaria per l'Italia, giovedì sera, stiamo elaborando, mettendo allora, a punto... Allora, la notizia è questa, alle primarie, quando ci saranno, perché si capisce sì, bene quando ci sarà pure Enrico Lucci, questa è la realtà delle cose. Esattamente. Ma tu con chi stai però, oltre che con te stesso, naturalmente? Con Bersani... Ma ma che devono aver paura tutti quanti? Devono aver paura dell'uomo col corbacco. Ma l'hai visto come mi sono presentato? È che non lo so. Sai in Siberia quanti alberi ci stanno, quante betulle da tagliare ci stanno? Tu, la cosa incredibile è che qualcuno ha preso sul serio queste cose qui, editoriali sulla libertà di informazione. Ma ci si può presentare così oppure no? Cioè, tanti anni di luce non hanno capito un cazzo? Cioè, tanti anni di luce non avete capito un cazzo? Pure quando lui ha detto, ma c'è l'articolo 21 della Costituzione, ma è chiaro che era una presa per il culo, no? Ma roba incredibile. Eppure gente si è, come dire, no? Si è dilettata a scrivere, no? Ma si è adombrata. Si è adombrata. Tu sei un po' nostalgico però del PC quando studiavi all'università. Certo, Carbonella, a me la nostalgia mi fa schifo, io guardo sempre avanti. Una cosa sono le cose che c'hai nel cuore, che hai amato. Che ce l'hai nel cuore? Nessuno me la toglierà mai. A farci il martello ce l'hai nel cuore o no? Assolutamente. Però so tutte cose che uno ama, perché io ho amato la storia del socialismo in generale. Tutto ciò che è socialismo mi ha interessato, l'ho amato. A mio modo di vedere, tutto ciò che ha migliorato la vita degli esseri umani in questi ultimi 100 anni, anche se in nome di questa parola sono state fatte schifezze non indifferenti. Però detto ragione, questo, il socialismo è una cosa sacra per certi aspetti, ma questa è la storia. La storia è la politica morte. Oggi che la voti? Politica è la che storia voti vera. Oggi che voti oggi? Va a capire oggi, da adesso un po' che devi votare. E che ne so, il PD? Cosa voti? Anche i radicali, sono due partiti ormai. Voglio vedere quello che esce. Certo, qua alla fine uno, veramente anche uno che ha sempre votato, che ha sempre... sono riusciti a far disamorare qualsiasi persona. Sei disamorato, dai. Qualsiasi persona che in buona coscienza andava lì e metteva la crocetta, ci sono riusciti. Senti, ma hai fatto? Ma mio amico Montanini, l'avete reclutato ancora questa stagione da Nemo o no? Mio amico Montanini. Gagliardo, guarda, mo sto qua a Nemo, sta di là, fa se una boccia di vino, mo vedo da qualche parte lo chiacco. De whisky, no? De vino è troppo poco, direi. È Gagliardo, è matto come un cavallo. Però è vero, capito? Uno di quei matti veri, capito? Perché io non ho mai sopportato pure i matti finti, no? Gli altri. No, è matto vero, è matto vero. Ma le canne te le fai ancora tu o no? No, io non me le sono mai fatte veramente. Mai a me canne. La droga mi fa schifo, sul serio. Vabbè, amico mio, ha sempre fatto schifo. T'abbraccio. Una volta, ma la sono fatta a 20 anni, poi le canne mi facevano vomitare. A 2 me ne sono fatte e me davano fastidio. Oh, t'abbraccio forte, mi raccomando. Oh, ciao, bellissimo. Sempre sul pezzo, sempre ciao, sul pezzo, Sempre sul pezzo, ciao. Ciao, ciao, ciao. E alla mattina, quante le venci, ciappate le cuore, te le figli in del cu, zan zan. Lasciati un parento e alla defecazio non ci penso. La zanzara. Ore 8:40 di lunedì mattina e sto cacando nel bagno della Commissione Europea. Forse Juncker si rimette, a cosa penso? Al congresso del PD, penso alle scissioni, alle correnti, ai giovani turchi, ai vecchi turchi, ai turchi di mezza età? No, penso a Sgarbi quando cagava nel palazzo del Quirinale. Sentite, con tutto il rispetto per il rabbino, fasse una scopata senza venire, è come mangiasse una carbonara senza pancetta. Sì ragazzi, ma fare sesso senza la dispersione del seme l'ho fatto, ma ho un mal di palle che è una cosa inenarrabile, non riesco a camminare. Parenzo, non riesco a camminare. David, questo è un problema serio. Io però non so come aiutare. Ho capito, però questo, sarà colpa del rabbino, amico tuo. Il rabbino ha dato delle indicazioni ai nostri ascoltatori. Ha spiegato come funzionano le cose. Ho capito, poi, ma il rabbino ha dato delle indicazioni dicendo chi si masturba è un idiota. Ma non è ha vero, detto bisogna trattenere il seme. La gente prova e poi questo qua ha delle conseguenze. Guarda che a trattenere il seme, cioè diciamo in quella pratica lì, c'è il famoso... Ma ci sono insegnamenti tantrici, mi dicono. Ma d'accordo, va benissimo, però in alcuni ascoltatori le conseguenze sono state nefaste. Sono state dannose. Mi dispiace per loro. Almeno in apparenza, almeno superficialmente. Mi dispiace molto per loro, guarda. Vabbè, d'accordo. Parenzo, non riesco a camminare. Allora, Augusto da Varese, il signor Augusto, vai. Ciao Crucià. Dimmi. Senti, dimmi. Medaglia d'onore per avere menzionato, non so se unica tra le radio, questo caso del bordello legalizzato pagato con i nostri fottuti soldi. Ho sentito, cioè, bordello immagina... legalizzato, ragazzi, Orge e Marchettari, almeno così si capisce dalle immagini, a spese del governo. Le Iene sono entrate nei club gay, dove le uniche attività culturali in realtà sono i glory hall. Tu sai che cos'è un glory hall, Augusto? Sì, ho seguito ieri sera proprio. No, ma sai che cos'è un glory hall? Ho visto il filmato e quindi l'ho capito ieri sera. Prima non lo sapevi? Onestamente non lo sapevo. È un posto dove si infila il gingillo, in pratica, cioè il pisello, eccetera. No, c'è un altro che pratica un'attività, chiamasi sesso orale, dall'altra parte. Comunque, la cosa vergognosa, primo, è che Parenzo mi sembra molto tranquillo su questo argomento, mentre di solito si inalbera. È cosa, no, ma che di cosa, scusi, su che cosa mi devo arrabbiare? Ma ti devi inalberare, Parenzo, di questa vergogna. 55.000 euro, ma quanto dobbiamo lavorare noi normali un anno per contribuire, per versare questi soldi che vanno a questi non c'è croci. Dubbio che è uno scandalo, ma adesso lasci stare quel che fanno, ma è evidente che è uno scandalo, l'ho detto subito, figuriamoci. Certo. Mi scusi, ma volevo dire un'altra cosa. Alla fine avete notato che ha precisato il grande Filippo Roma che, siccome il servizio era stato fatto 15 giorni fa, mi pare che non sia stata fatta nessuna verifica, o sbaglio? Sono andati a chiudere questo posto, a prenderlo, ma io voglio che tutti saltino in aria, ma possibile? Cioè, sono ancora lì questi, sono aperti. Voi lo sapete. Guardi che fare sesso dentro questi posti non è proibito, evidentemente. No, cioè, quello che è proibito chiaramente è fare la prostituzione. Sì. Ma questi 55.000 euro ce li siamo fatti ridare, noi poveri che versiamo le tasse sono ancora comunque, lì nelle casse di il capo di questa associazione, il capo di questo ufficio di Palazzo Chigi, quello antidiscriminazione, eccetera, eccetera, pare si sia dimesso proprio in questi minuti. Grande, vi amo, la zanzara, vi amo. Ma che c'entriamo? Ma mangio noi, cioè a dire la Ieni. Il direttore Francesco Spano dell'UNAR si è dimesso, è andato dalla Boschi, la Boschi ha fatto un mazzo così. Perché si è dimesso allora? Si è dimesso perché evidentemente non ha fatto nessun controllo sui soldi dati a questa associazione. O forse perché certo, per difendersi preferisce difendersi da senza incarico, non lo so, ma certo. Tagliati all'ascolto, un inchino a tutti, alla regia della Zanzara, perché avete sollevato questo tema, un encomio ciao, solenne. Ciao. Federico da Milano, vai. Salute. Federico. Dimmi, Federico. Oh. Pronto? Dimmi. Eccomi. No, volevo parlare perché prima avevo un po' di confusione perché tra il circolo riservato per persone che mascherate se lo buttano al culo e l'assemblea del PD non vedevo tanta differenza, sinceramente. Quindi... Beh, adesso non esageriamo, dai, su. Ho fatto il battutone. Dai, è una cazzata questa cosa qua, dai. Cioè... È un po' una cazzata. Ma è un po' una cazzata, però... anche perché lì purtroppo non ci sono manco, cioè, non c'è manco stato un'orgia in diretta, cioè, c'è stata un'orgia di noia più che altro, cioè, più che l'orgia. Dice, almeno dall'altra parte si divertono, almeno quelli si divertono. Beh, cioè, uno ascolta sette ore di assemblea, per chi ha avuto il coraggio eccetera, con degli interventi di una noia ho ascoltato una noia mortale. Ma poi totalmente scollegato da quello che sente totalmente il paese, cioè... No, ma là c'è la questione della Sicilia, che è un posto che bisognerebbe radere al suolo a livello istituzionale, naturalmente io adoro la Sicilia, radere al suolo, 52 milioni di debiti, di tasse non riscosse, scusate, vitalizi alle stelle. Questi sono i problemi da risolvere, cioè le regioni che fanno i cazzi e questi parlano delle scissioni tra la sinistra del PD o gli anti-renziani e i renziani, mentre c'è una parte di paese che fa i cazzi propri come la Sicilia, dai su, cioè è proprio una cosa completamente scollegata da tutto, da qualsiasi cosa, dai. Eppure hanno la mistica del partito, pensano che quella sia una cosa fondamentale per il paese. Vabbè, Giulio da Torino, vai Giulio. Giulio, eccolo. Dimmi, dimmi. Oh, finalmente in diretta. Tutto bene? Sì, è tutto bene. Insomma, tutto sì, ci difendiamo. Dimmi, allora. Allora, parliamo di un paio di cose importanti. Innanzitutto, le canne. Solo canne con la zanzara, solo canne. Ma che vuol dire solo canne, amico mio? Che vuol dire solo canne? È l'unica, canne e zanzara, pomeriggio perfetto. Vabbè, questo. Lei ha un lavoro, però anche una vita normale, oltre a questo. Lavoro, giusto? Si studia, si lavora, bene, un po' di bene, tutto. Bene, perfetto. Vabbè, giusto, no, se questo qua si vuole fare le canne, ascoltare la zanzara, no, ma perché lo devi... sia totalmente diseducativo ascoltare la zanzara ogni giorno. Ma perché è diseducativo? Non è affatto... il mio invito è a non ascoltare la zanzara. Sì. Cioè, voi non dovete ascoltare questo programma. Sì. Specie se avete i figli in macchina, dovete ascoltare un'altra cosa, mettete la musica classica. Tu sai che è un modo per far ascoltare di più la radio, questo qua. No, veramente. La zanzara che le canne. Sì. Zanzara insieme alle canne, però si può anche ascoltare la zanzara senza farsi ecco, le canne. Appunto, cioè. Tra l'altro. Poi? No. Poi? E poi niente, dobbiamo tornare con una cosa fondamentale, le mutande. Cioè qui in casa mutante, siamo in due, certo. Non le usiamo, Crucia. Senza mutande. Cioè due maschi siete. Siete due, non usate due, le mutande, cioè mettete schifo. I pantaloni senza siete, le mutande. Siete due sporcacciori schifosi. Sì, è proprio una cosa di libertà. Vabbè, totale. Ho capito, mio amico mio, però non è che si può girare senza mutande, con i pantaloni siete senza mutande. Siete due sporcacciori schifosi. Con la Nespola volante. Ma no, che Nespola volante, dai, su, ma che vuol dire? È anche una questione, a me dell'igiene non me ne frega nulla, ma anche una questione proprio tecnica. Cioè, si e sta... invece no, perché con la tuta è uno spettacolo. Vabbè, ma la tuta che c'entra? La tuta. Che abbiamo deciso questa... Ok, ma che ti giri? Ma uno, perché deve entrare nel merito di due pazzi che telefonano alla radio della Confindustria per dire che girano nudi a casa loro? Ma cosa me ne frega? Meglio no, che fuori a casa anche. Loro? No, per strada. Sono, ma sono due schifosi sporcaccioni. Cioè, con la tuta e niente sotto, ma anche coi jeans. Coi jeans senza ma nulla, mutande niente. Ma figurati se lo fanno, dai, ma figurati. Vabbè, ciao Giulio, ciao. Due ciao. Esibizionisti sporcaccioni. Ragazzi, chiamiamo questo canale che è il capo di questa associazione finanziata 55.000 euro da Palazzo Chigi. Da Palazzo Chigi, da questo UNAR. Si è dimesso pochi minuti fa il presidente, il responsabile di questo UNAR. E 55.000 euro che dovrebbero andare a parlare di discriminazione, iniziative eccetera eccetera, e invece vanno anche a finanziare associazioni e circoli dove dentro sostanzialmente si scopa e addirittura tra gay, e addirittura viene praticata, da quello che abbiamo visto nel filmato delle Iene, la prostituzione. Pronto? Sì, canale? Sì. Sì, buonasera, qui Radio 24, salve. Salve. Salve, volevo sapere qual è la sua reazione dopo l'inchiesta delle Iene. Credo che sia assolutamente una trasmissione costruita in modo completamente sbagliato, a dir poco, per fargli un complimento. Addirittura, sbagliato. Quello che hanno detto non è vero, quindi assolutamente sbagliato, inventato. Ma cos'è che ha inventato, scusi? Ogni cosa che hanno scritto, cosa. Cioè, quindi lei querela, insomma. Assolutamente sì. Cioè, non ho capito, che cos'è che sarebbe inventato? I soldi di finanziamento pubblico? No, quelli sono certificati. Ma, no? ma per esempio, il finanziamento pubblico, loro dicono di averli dato ai circoli, ma i circoli non c'entrano niente con l'ambito nazionale. I soldi sono andati e andranno sì. ai centri antiviolenza e d'ascolto, che non c'entrano niente con i circoli. Cioè, lei dice il titolo del servizio, che è soldi pubblici per sesso, prostituzione, eccetera, eccetera, non sì. c'entra nulla perché i soldi... Perché i soldi dati all'Andos sono dei soldi che vanno per attività, diciamo, culturali. Ma noi abbiamo vinto un bando chiaro, noi non è che abbiamo vinto il bando per avere dei soldi per finanziare i circoli. Ho capito, però siamo sicuri che i soldi pubblici vanno alle attività culturali e non vanno invece nel grande calderone che finanzia anche i circoli? Ma se c'è addirittura un conto a parte, se c'è addirittura un conto completamente separato, quindi non rientra neanche nel rendiconto dell'associazione, quindi non si mescolano neanche i soldi per la quotidiana sopravvivenza dell'associazione, parlo del nazionale, non dei circoli, perché i circoli sono completamente autonomi. Per cui quello che è stato detto è completamente falso, sì. costruito ovviamente ad arte. Sfido chiunque a controllare come andranno spesi questi soldi. Si sono inventati che quei soldi vanno a finire ai circoli dove si fa prostituzione. È vero che si fa prostituzione in quei circoli, sì o no? Ma stiamo scherzando. Scusi, però dalle immagini sembra di sì. Dalle immagini, da quello che dicono, sembra proprio di sì. Come abbiamo tirato fuori quelle immagini, quello che hanno fatto, chi hanno intervistato, eccetera, io non lo so. So per certo che i circoli hanno una piena autonomia, non c'entrano assolutamente niente con l'associazione rispetto a quello che fanno all'interno. Beh, autonomia, hanno il marchio dell'Andos, hanno il marchio dell'Andos sopra, scusi, lei è anche presidente o proprietario. Allora, ma i circoli sono completamente autonomi. Ma lei sa quello che accade all'interno dei circoli? Lei sa da presidente quello che accade all'interno dei circoli, sì o no? Ecco, benissimo, lei può giurare che non esiste la prostituzione? Allora, io posso giurare che i circoli combattono la prostituzione in maniera strenua. Non è quello che sembra dai filmati, però, io lo dico, eh. Lei l'ha visto il filmato? Lei mi sta intervistando per ascoltare quello che dico? Sì, ma infatti l'ho ascoltato con grande interesse. Il fatto che quello che le dico a lei non le torna. No, io lo ascolto, a me non torna dalle immagini. Allora, gli sto dicendo io come sono le cose, poi lei creda quello che vuole. Sì, certo. Allora, spero ed esistono ovviamente delle forze pubbliche, i carabinieri, polizia, spero che facciano dei controlli e vedono qual è la verità. Allora, ripeto, nei circoli questo non accade, e i circoli fanno di tutto per non farlo accadere. Noi abbiamo più di 200.000 iscritti e abbiamo oltre 1.000 fra dipendenti e volontari all'interno dei circoli. Se c'è qualche dipendente, qualche volontario o qualche socio dedito alla prostituzione, mi dica lei, con 200.000 soci come posso io fare? Invece è normale. Non sono un poliziotto. Invece è normale. Ho capito. Una cosa è certa però, che se scopriamo che qualcuno lo fa, prendiamo provvedimenti anche seri. E allora cominciate a prenderlo, se avete identificato quelle persone lì, cominciate a prendere provvedimenti, perché se chiedono dei soldi extra per prestazioni sessuali. Infatti ci sono già querele. È vero o no che vengono? Sono già state fatte querele. Allora, alcune pratiche, che ne so, come per esempio il Glory Hall, no, che ha suscitato scandalo in queste ore, sono delle pratiche normali che avvengono all'interno dei circoli, per carità, per me sono legittime. Lei con suo amore cosa preferisce fare? Ma io non voglio rispondere a questa domanda. Io preferisco anche di più, ho trovato la persona sbagliata. È il problema suo. Allora, rispetto alle scelte che ogni persona vuole fare da un punto di vista sessuale, è un problema loro. Sì, certo, con i soldi dello Stato, finanziare con soldi dello Stato queste cose, magari uno può dire no. Ma che cosa finanziano le grandi volte sono dello Stato? Beh, quello che è venuto fuori dalle Iene è questo. Ho voglia di continuare fare polemica, lo faccio in un'altra sede, non con me, perché io ho tanto da fare. Canale, è un fatto che voi ricevete soldi pubblici e dentro i vostri circoli avvengono, sembra, uno, attività sessuali legittime, secondo, prostituzione che non è legittima. E dunque uno può capire, i soldi pubblici vanno a associazioni in cui si praticano sesso e anche prostituzione. Questo è quello che si capisce. Ma non c'è la benché minima rispondenza fra una cosa e un'altra. Lo ripeto ancora una volta, i circoli hanno una piena autonomia, non c'entro niente con il comando nazionale che ha, ha gestito. È vero che il presidente dell'Una era un vostro socio? Ma assolutamente no. Questo hanno scoperto le Iene e dunque ci potrebbe essere un conflitto di interessi. Infatti le Iene si assumeranno le responsabilità di quello che hanno scritto. Che cosa vuoi che le dica? Dunque non è vostro socio di nessun vostro circolo. Ma nella maniera più assoluta. Va bene, grazie, arrivederci. Grazie. Nella maniera più assoluta si assumeranno loro le responsabilità di quello che hanno fatto e di quello che hanno scritto. Punto, basta. Va bene, grazie, arrivederci. Grazie. La saluto, arrivederci. Saluti, caro. Quando è che chiudete, cornuti? La Zanzara. E Pippa meno coca, Cruciani, pippatore, cocainomane. Parenzo, hai rotto il cazzo con Zagrebeschi, o come cazzo si dice, hai rotto il cazzo. Parenzo, se vuoi una cannetta, chiamami. Ciao. Meno male che una persona autorevole ha detto quello che effettivamente siete. Capite? Siete due buffoni. Siete due pagliacci da circo e siete pure due spacciatori, perché propagandate la droga, capite? Poi tu controbatti tutto quello che dicono chi ha fumato un sacco di canne, tu dici che non hai mai fumato una canna e pretendi a sapere più degli altri che le hanno fumate. Ma che cazzo dice Cruciani? Ma tanto è una regolata, no? Ma vaffanculo Cruciani, detto bene. Grande Gaspari, andate a fanculo tutte e due. Adesso parliamo seriamente, siete due pagliacci che non fate parlare la gente. Io non faccio la spalla dei pagliacci, arrivederci. Fate la propaganda della droga, siete due delinquenti, pagliacci e imbecilli, capito? Voi propagandate la droga, siete due spacciatori, mascalzoni, delinquenti, andate a fare il culo. Allora andiamo, apriamo di nuovo le cataratte, caro Parenzo. Carlo da Roma, vai, fra poco Adinolfi, fra poco Adinolfi all'attacco. All'attacco dei circoli gay pagati dallo Stato, dove si scopa e dove si fanno i glory hall. Vai Carlo, vai. Cruciani? Dimmi. Allora, io avevo telefonato, molto calmo, sono all'interno di un ospedale a Roma, giornata infernale con una suocera di 92 anni trasferita in una clinica di breve degenza. Allora? breve e poi lungo degenza, e incazzato come una bestia, sì. E prendo l'occasione per mandare serenamente e pagatamente a fanculo Parenzo. Sì, prego. Lui, ecco, ci sia lui, del giorno in cui c'è la suocera che sta male, è una priorità la sua, giusto? Lui, mi sembra giusto. Lui e tutta quella pletora di pseudo finto comunisti radical chic a champagne, sì, e caviale che cantano Bandiera, no, Rossa. A me però il caviale, hanno... posso dire che a me il caviale però non posso, piace troppo. Posso, sì, però a me il caviale no, fai, dice... fai silenzio. No, no, no, faccia silenzio lei, io direi salmone e caviale e champagne. Caviale non mi piace. Lui è tutta quella pletora che una piazza salmone con una carica però della polizia non l'hanno mai vista. Non l'hanno mai vista, no? Hanno devastato, certo, questo paese. Hanno contribuito alla devastazione il salmone rosso di questo paese. Loro e tutti quanti. Il salmone rosso affumicato. Sa qual è il salmone rosso Alaska affumicato? Di associazioni culturali, non solo di Froci, ma anche tutto il resto delle associazioni, sì, culturali. Ma che c'entrano i Froci adesso, scusa? C'entrano comunque. C'entrano i Froci, pure i Froci, i comunisti, però tutti insieme. È una pletora di sfruttatori di questo paese. Però scusi, piace il salmone, no, volevo dirlo che mi piace, a me piace il salmone rosso, no, selvaggio, affumicato. Tu sei proprio affumicato. Da champagne e caviale, tu mi piace lo no, no, il salmone rosso selvaggio mi piace a me. E prende del culo gli operai e quelli che veramente il le porte salmone in piazza rosso le hanno selvaggio però, non il caviale. Ti rimando a quel paese, nemmeno. Mi saluti sua suocera, mi saluti sua suocera, mi saluti sua suocera. Massimo, vai, dimmi. Massimo. Come salmone rosso affumicato dell'Alaska, dai. Pronto? Oh, e dai? Io non so di Roma, io so di Perugia, città rossa, rossa di merda. Vabbè, purtroppo adesso ha cambiato colore, ma volevo dire a Parenzo, eccoci, che dovrebbe studiare di più, perché sapere, sì, quanti morti ha fatto il comunismo, sì, nel mondo. Cosa, ma cosa c'entra con lei? No, ma parla, non mi metto a discutere con lei di questa roba. Io mi metto a discutere della storia del Partito Comunista Italiano, se lei vuole. Se lei vuole, mi metto a discutere del ruolo che ha avuto il Partito Comunista Italiano nella storia di questo paese. Ignorante salame. Le Brigate Rosse, brutto imbecille coglione, hanno sparato. Le Brigate Rosse hanno sparato a del PC, coglione, bastardi, coglione, coglione, ti aspetto qua, oh, imbecille, imbecille, le Brigate Rosse hanno sparato ai dirigenti del PC, idiota, cretino, cretino, asino, Massimo, fermo, fermi, le Brigate Rosse hanno sparato, fermo, ma che ti accaldi, però ti scaldi così da, vai in Nord Corea a manifestare i tuoi diritti comunisti, maiale, vabbè Massimo, ciao, ciao, ciao. Siamo figli della Corea del Nord, dai. Sì, ma povero imbecille, idiota. Stai calmo pure tu. Imbecille, che cretino. Te lo devo dire io, di stare cretino, calmo. Cretino, imbecille, idiota. Fermo, fermo. Mario Di Nolfi, eccoci, eccoci. Eccoci, qua. Buonasera, ciao, buonasera, Di ragazzi. Buonasera. Eccoci. Allora, ciao, caro Mario, devo dire la verità. Per primo, tempo fa, aveva sollevato il caso dell'Andos, questa associazione. Prima abbiamo sentito il presidente dell'Andos Canale negare tutto, dire che i soldi che vengono dati all'associazione, 55.000 euro, vengono spesi in realtà per attività, sì, come dire, il telefono anti non so che cosa, sì, sì, attività che nulla hanno a che fare con quello che avviene poi nei circoli, nei circoli dell'Andos. Questa giustificazione, caro Mario, è credibile oppure no? Oppure... Allora, qui il problema, se siete interessati alla questione, la questione seria sono questi circoli, non di Andos, i circoli di Andos, i circoli di Arcigay. Anche perché vi do uno scoop, sì, la soffiata contro Andos non, sì, l'ha mica fatta Maria Di Nolfi, no, l'hanno fatta altre associazioni. L'ha fatta le associazioni gay concorrenti di Andos. Cioè una lotta, d'accordo, una faida tra associazioni gay. C'è una faida tra cosche all'interno del mondo LGBT sull'assegnazione dei finanziamenti pubblici, sì, che è estremamente interessante da studiare, perché quel bando non è da 55.000 euro, ma è da 900.000 quel euro. Quel bando è da 999.724 euro. Ma al di là, questa casa, sì, no, no, guarda, questa è la cosa interessante, è tutta qui, è questa guerra tra questi circoli, sì, dove in tutti i circoli si pratica la prostituzione. Voi avete alzato, cioè, il telefono per un circolo a caso, sì, e avete avuto chiarito, sì, sì, che dentro, sì, quel circolo si va, perché se no non esistono quei circoli. Mm. Cioè tu stai quei dicendo che tutti, fanno tutti solo quello. Cioè tutti quei fanno circoli, solo ma tutti quelli che sono, come dire, affiliati all'Andos oppure ad altre, anche ad altre, anche ad altre associazioni. Cioè nella maggior parte la guerra, di... sì, la guerra, sì, è sul controllo del territorio e su chi fa più soldi. Il signor Canale è uno di Arcigay, che si è staccato da Arcigay, ha fatto Andos, sì, e ora paga essere stato uno scissionista del clan di Scampia. D'accordo? È incredibile questa storia, cioè la guerra, la guerra, no, ma io pazzesco, ci credo, questa è la notizia. Bibbia, questa è la storia. Su quel bando di 999.000 euro troverete i soldi dati a Archigay, 75.000 euro. I soldi dati a Archigay Roma, che non bastava dare gli Archigay, anche Archigay Roma. Però scusami, scusami, questo qua è il quadro, d'accordo? Tu stai dicendo che questa è la cosa interessante. Poi andate in tutti i singoli circoli che si chiamano. Si pratica la prostituzione. Andate a trovare non solo quella normale, troverete la prostituzione minorile. Troverete addirittura bar, troverete. Beh, se c'ha ragione su questo, sì. Troverete al bar i ragazzini, questo a cui dopo quattro mesi diranno: non puoi più stare al bar perché non ti posso pagare, se vuoi lavorare vai a fare i passaggi, perché funziona così. Cioè prostituzione minorile, funziona addirittura così. C'è anche prostituzione minorile, c'è un compio, lo denuncio. Vabbè, da 10 ma scusami, da un scusami anno, Mario, se, famosa se c'è sì, data, no, ma l'ho capito. Luca Telese, di cui dico: queste sono colonie del male. Vabbè, lascia perdere le colonne del male. Con soldi pubblici. Però il finanziamento di soldi pubblici e la prostituzione, sia minorile che non la prostituzione, naturalmente. Ma non tu è... puoi, ma tu puoi, oh, scusami, sì. Giuseppe, seriamente, dare una montagna di quattrini, non c'ha ragione, a me lo dici, a me lo dici. Per circoli che fanno prostituzione, perché questo però scusami fanno, formalmente ma è accettabile con le famiglie, scusami, che arrivano a fine. Hai ragione, hai ragione. Mario, scusami, Mario, però questo ha ragione, Mario, scusami, ragione. Scusami, però, su questo ha ragione, bisogna dire che ha ragione, responsabili, sì, fosse così è evidente che ha ragione, è così, no, è però così, formalmente 100 circoli e vedete però, cosa fanno. Mario, formalmente il tizio 100 100, canale prima, allora canale prima ci ha ma detto, ma che ne frega del formalmente. Vabbè. Giuseppe, non te ne è mai fregato niente, no, ma ti dico, ma non me ne frega, infatti, bravo, bravo. Ma infatti non me ne frega niente formalmente, però formalmente uno poi risponde alle accuse, no? No, viene dato al, alla cosa nazionale che si faccia il finto. No, dice che ci sono, dice che quando quello è un business che gliene fotte un cazzo del telefono antiviolenza. Sì. Benissimo, tu quelli stai dicendo un colossale business dove si fanno una montagna di soldi e tasse, questa è la verità. E la droga? Dove in quei circoli si spaccia droga, si spaccia droga. E dove c'è la prostituzione sistematica, e querelatemi tutte le volte che volete. E perché non le... vedere quello che c'è. Perché non li chiudono? Perché e non allora li... oggi le dimissioni dove doveva dare Francesco Spano, il direttore del Lunar, finito dentro questo tritacarne, sì, delle, sì, varie bande che si combattevano. Le doveva dare Maria Elena Boschi, che con il Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri non ha fatto opportunità, firmava 999.724 euro. Il finanziamento allo Stato. Su questo ha ragione. Fosse, fosse vero che si è dimesso quello, ma sì, se si dimette quello. Dimesso, no, dico, se si. Aspetta. Il capo espiatorio, certo, adesso, se no? Si dimette quello, in realtà chi non ha controllato dove vanno questi soldi? Sì, ma tecnicamente, certo. Tecnicamente, certo. Ma come faceva a sapere chi. Allora, ma come faceva a cioè, sapere se aveva quello di cui... No, no, ma io sono d'accordo con voi. No, io sono d'accordissimo con voi. O è stata leggera. Era e ha dato questi Maria soldi. Maria Boschi pensa che cavalcare il lobbismo LGBT è una cosa che gli dà una manata di rossetto che la fa sembrare politicamente più figa, e invece deve capire che questa roba qua va studiata per quello. Ma scusa, che è, scusami un attimo, colossale schifoso business. Scusa, perché vanno chiuse le dark room? Non ci fosse la prostituzione, non ci fosse la spaccio, vabbè, di cocaina, perché c'è lo spaccio di cocaina, c'è lo spaccio di MDMA, c'è lo spaccio, ma quella è un'altra roba, droga, quella... c'è la prostituzione minorile, c'è il lavoro a nero, ci sono soldi, ma quella è un'altra roba, non è che ti... quando invece è un business, che cazzo ti serve di altro per chiudere, no, questa ma roba? Ho capito, ma non è che le dark... ti serve di più, ma le dark room in generale che non è che vanno chiuse, il problema è il glory hole, che me ne frega, ma no, il ma che c'entra il glory hole, è una cosa il divertente, quello basta. Che ti ho detto, no, ma su questo è verificabile, andate a vedere circolo per circolo, cioè tu stai dicendo, Mario, una cosa di una gravità assoluta, tu stai dicendo, beh, una gravità grave, nel senso, sì, stai, certo, dicendo che la notizia, tu hai alzato il telefono, hai chiamato, sì, a casa un circolo, assolutamente, ma che ti hanno raccontato, sì, questi fanno questa roba qua, sì, questi fanno sesso e fanno anche sesso a pagamento, lo dicono, prostituzione, lo dicono chiaramente, perché se diventi la gente non ci va detta sta roba, cioè tu dici se, la, se, non viene, se non c'è sesso a pagamento, ma senza i passaggi non ci vanno, senza la sauna non ci vanno, vabbè, magari vanno per il gloriolo per scopare senza pagare, ma magari ma vanno per scopare senza pagare, cioè ma ci sono, dai, anche circoli dove vanno a scopare senza pagare, e io ne conosco tanti dove si paga l'ingresso e poi si scopre libertà, poi comunque lasciamo per una porcheria, c'ha ragione di noi, è una porcheria, questa roba non si può dare. Loro dicono i soldi sono per le attività culturali, per i telefoni, tu dici che sono tutte cazzate, è una copertura, punto e basta. è al di là delle cose formali, bisogna guardare alle cose sostanziali. No, ma io sono convinto, loro dicono che ci sono conti separati. Loro dicono che sono conti separati, cioè i conti che vanno. Il business dove lo fanno? Lì prendono X e dall'altro prendono milioni. Fermi là, fermo lì che torniamo con Adinolfi. Il canale si stacca dall'Arcigay secondo te? Perché non vuole più steccare. Fermo lì che torniamo. Siamo al top, ragazzi, siamo al top. Gelato al cioccolato, dolce un po' salato. Tu gelato al cioccolato, pubblicità. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Pronto? No, volevo parlare perché prima avevo un po' di confusione, perché tra il circolo riservato per persone che mascherate se lo buttano al culo e l'assemblea del PD non vedevo tanta differenza sinceramente, quindi... Mi piace un mondo così? A me fa cagare un mondo così, fa cagare! E c'ha ragione su questo. Allora ragazzi, però non c'è, bisogna ragione Adinolfi stavolta. Allora, innanzitutto allora Gay Palazzo Chigi è stato sospeso il bando, notizia di pochi istanti fa. Stato sospeso il bando, tutto il bando, Luigi, Giuseppe, tutto sì, il sì, bando. Sì, tutto il bando, di 999.000 per Arcigay, Arcigay Roma, Lista Lesbica Italiana, Movimento Transessuale. Vatti a leggere i numerini dei soldi dati sì, al sì, futuro. No, ma va bene, questo va benissimo. Tutto io il bando io sono contrario in generale al finanziamento pubblico, figuriamoci se sono a favore del finanziamento di queste associazioni che non fanno nulla se non business. Questi fanno business. Certo, per me business è legittimo, perché fare le dark room o scopare dentro un locale è una cosa ci paghi almeno il barista come lo devi pagare, assolutamente, assolutamente. Tu mi sembra che però sei contrario pure all'esistenza di questi locali. Vabbè, al di là del finanziamento pubblico non mi chiedere che sia felice dell'esistenza di questi locali, certamente. Ripeto, oggi mi dispiace notare che si dimette il direttore del Lunar Francesco Spano e non, Il ministro. Il ministro, ma figurati se la Boschi fa la delega alla pari opportunità, e sapendo la Boschi perfettamente quello di cui si parla, tant'è che oggi sospende il bando oltre a dimettere il ministro. No, ma questo, come faceva a sapere? Questo ti chiedo, secondo te. Ma perché lo sa? Perché lo ma sanno, in che cosa è connivente? Ma come tu, però, no, ma io non lo sapevo. Come fa a essere connivente di quella porcheria lì, però? Ma non su questa roba. No, io ho fatto un'intervista di una pagina a Luca Delesi in cui ho raccontato per filo e per segno come funzionano ragazzi, queste se cose. Uno vuole andare a controllare chi dà i soldi ci mette due secondi per andare a controllare. L'hanno fatto le Ieni con una hanno fatto mandato una soffiata, le Ieni non l'hanno fatto perché si sono inventate, perché no, c'è una guerra per sì. bande internamente al mondo LGBT, da cui Andos si è staccata perché si era staccata da Arcigay, gliel'hanno fatta pagare. Tutto qui funziona così. Sì, no, ma su questo questa dinamica è un po' interessante invece di raccontare le minchiate di come di quello che fanno sessualmente sul Glory Hole. No, ma quello che c'entra il Glory Hole, l'altro si sa che cos'è. Certo che è interessante la dinamica. Questa è molto... dinamica forse è un po' più interessante. Ma guarda che il Glory Hole è semplicemente il fatto che appare abbastanza bizzarro che una di queste associazioni sul proprio sito, pagata dallo Stato, abbia scritto chi scrive Glory Hole direttamente. Questo è il punto. A me non me ne frega niente, tu puoi scrivere Glory Hole. Quello che è interessante, Giuseppe, è che tu telefoni a caso a un circolo qualsiasi e capisci perfettamente che roba è quel circolo. Sì, no, si fa solo sì, ma questo è vero, bravo, questo è vero. Ma è solo per fare bravo, sesso, bravo. Su questo non c'è dubbio. Adinolfi, hai ragione Adinolfi. Aspetta, senti quest'altro. La truffa fiscale e in più i finanziamenti pubblici. Hai ragione Adinolfi. Senti quest'altro, aspetta, senti quest'altro. Ha ragione Adinolfi. Senti quest'altro, senti questo. Pronto? Sì, buonasera. Apollyon? Sì, buonasera. Senta, volevo eventualmente tesserarmi, ma volevo chiedere prima dei servizi che offrite e dei prezzi. Allora, l'associazione offre sauna, idromassaggio, bagno turco, insomma c'è tutto, è molto grande. Senta, il servizio massaggi in sostanza? Il servizio massaggi è riservato solo ai soci e viene 38 un'ora e 20 mezz'ora. Posso chiederle, non si può fare sesso? Se vuole può venire alla nostra associazione, la nostra associazione è aperta a ecco, tutti i soci chiedo scusa, e ai gay. Ecco, chiedo ed scusa. È un'associazione dove tutti possono venire, si tesserano. Poi all'interno dell'associazione uno fa quello che vuole. Guardando il sito avevo visto Glory Hall, servizio massaggi, dark room, quindi insomma c'è sesso? Sì, ma è riservato ai soci. Quanto costa? Sì, c'è un tesseramento annuale della Andos e viene 17 euro. E poi se io pago questi 17 euro posso entrare, sì. E per ogni servizio c'è una somma in più o no? Sì, c'è una quota giornaliera da pagare tutte le volte che uno viene. Mi spiega solo gentilmente in che cosa consiste. Quando vuole ci venga. Ma in che cosa consiste Glory Hall, scusi? Non consiste nell'inserire in un buco? Dipende se lei ce l'ha o meno. È certo che ce l'ho. E ci mancherebbe altro. Sono anche quelli che non sono dotati. No, io ce l'ho invece. E allora, io inserisco. Allora, voglio saperlo. Inserisco dentro il buco. Che significa? Il cazzo, va bene? Ah, mamma mia. Insomma, c'è una fellazio. Il pompino, come lo chiami? Ma guarda, senta, lei ha tempo da perdere. Ma no, e sono io che... Ha una voce bellissima, quindi quando vuole... Mi puoi consigliare qualche altro servizio? Hai capito cosa mi piace? Allora consigliami, sì, io sì, ti sì. Ascolto, dimmi. Sì, posso consigliare, ecco, il bagno turco, tanto bene alla pelle. C'è sì. Anche la cromoterapia. Va bene. Meglio fare certe cose in un locale chiuso, senza dar fastidio a nessuno, che insomma... C'è gente che lo fa al di fuori, insomma. Ma guarda che io sono perfettamente d'accordo, Non devi mica convincermi. Buona serata e a presto. Anche a te, a presto, ciao. Buona serata. Ciao. Allora ragazzi, mi pare abbastanza chiaro che l'attività principale di questi circoli sia il sesso. Questo è normale, non le attività culturali. Adesso bisogna vedere... La prostituzione, anche in questa telefonata l'hai capito perfettamente. Sì, la ma c'è... La prostituzione. Sì, sì, sì, ma... Il massaggino, poi dicono, dopo il massaggino... Okay, non è che vuoi. Tutti vanno a massaggino, io ho visto delle immagini orge... Ma certo, ma c'è quel servizio, ora ti pare normale? No, che no, la situazione no, c'è no. Questo servizio... La prostituzione no. Che il finanziamento pubblico su sta bella, no. No, merda, dai, adesso allora, merda, dai, allora, non esagerare, merda. Prostituzione minorile è una merda. Prostituzione minorile. Però scusa, è pieno di cinesi, è pieno di massaggiatori cinesi. Sono ragazzini che vengono chiamati a fare i baristi. Ma questa è un'altra cosa, la prostituzione minorile è un'accusa gravissima, la prostituzione minorile. Io te lo faccio con nettezza questa cosa, come ho detto 10 mesi fa. Come funzionavano questi meccanismi? Va bene. Adesso abbiamo 999.000 euro dati dalla Presidenza del Consiglio. Guarda caso, per la nostra battaglia, perché il nome Andos l'abbiamo fatto noi come popolo, abbiamo detto fermate questa roba e fate rimettere il Presidente, il direttore del Luna. Cosa però che è stato fatto? Oggi, dopo che hanno fermato il bando e si sono resi conto cosa avevano fatto, forse è il caso che la responsabilità diventi politica. Ma pure secondo me, Elena Boschi, perché altrimenti il povero Francesco Spano fa il vaso di coccio tra i vasi di ferro, cioè tra la lotta, perché hai sentito anche il clima umertoso della telefonata, no? Che è una classica condizione di quel mondo. No, ma... La lotta tra cosche all'interno delle associazioni LGBT e il politico che... Ma tra l'altro non si capisce il rapporto, non si capisce bene se è tesserato o no, perché prima noi uno di quelli ci ha detto che non è tesserato. E ormai non cambia niente, tanto vabbè, si è dimesso. Quindi la questione è chiusa. Va bene, ciao Mario, ciao. Parenzo, ti segnalo che hanno venduto all'asta per $243.000 il telefono della morte di Hitler. Guarda che è un bel pezzo, David. Oh. Telefono per i collezionisti sicuramente. Cioè, il telefono della morte di Hitler, rosso. Sì, l'ho visto sul Corriere. Ho scritto Adolf Hitler con la cosa là. Il telefono della morte di Hitler, $243.000. Ora, è un grande pezzo di collezionismo. Vuoi vietare anche questo? No, non mi sogno. Vuoi vietare anche questo, traffico di memorabilia? No, non mi sogno di sicuro, ecco, se lo tiene nascosto a casa, nel proprio gabinetto. Bellissimo, sarebbe il telefono della Zanzara, bellissimo. Stupendo, il telefono della morte di Hitler. Non c'è bisogno, perché i seguaci del giovane, i nipotini di Hitler, mi pare che chiamino qui. Quindi alcuni, non ti preoccupare, non occorre il telefono rosso con sopra scritto però Hitler. Sarebbe bellissimo averlo qua. Perché spesso all'800 24 00 24 questi miserabili nipotini grotteschi, nipoti acquisiti di quel maledetto, chiamano. Non ti preoccupare, che si fanno sentire. Senza allora, dove andiamo? Rosso. Andiamo a Franco, provincia di Roma, dai. Andiamo a Franco? No, andiamo da Ma Franco. Ma come andiamo parli? Da Franco. Andiamo a Franco. Vai, Franco, vai. Andiamo a Franco. Franco? Oh. Ciao, di Parma comunque, sono il camionista. Ah, il camionista Procio. Ci avevamo già sentiti, sì. Il camionista Procio, bravo. Sì, sì. Oh, fatemi gli auguri, che mi sposo il 10 di giugno. Beh, stupendo. Potremmo fare di noi da padrini. Certo, padrini tra il matrimonio. Ma che bello, tra... ma magari. Beh, caro Franco. Invitaci a colazione, alla lì veniamo. Caro Franco, camionista, diciamolo, Frocio, dillo anche tu. Camionista Frocio, fermo in un parcheggio in questo momento, fra l'altro. Vabbè, quando è che ti sposi, scusa? Quando con chi ti sposi, scusa? No, ma quando anche, soprattutto? 10 giugno, credo. 10 giugno, ho detto. Allora, il 10 giugno, noi in genere... Con il compagno con cui sto da 27 anni. Sabato 10 giugno, sì, ce l'ho libero, però noi in genere abbiamo un tariffario per partecipare ai matrimoni. Ma non è vero. Ma non abbiamo? Ma ti do un cazzo, da come, come i politici, come i politici. Abbiamo un piccolo tariffario per partecipare. Noi partecipiamo a battesimi, matrimoni, anche a estreme unzioni. Ci chiamano molto alle estreme unzioni. Sì, è vero, unzioni, è vero, alle estreme unzioni, sì. Ci per fare un po' di casino. Felicissimo, perché sto con una persona che la auguro a tutti, perché... Ecco, tu sei mai andato in una dark room? Comunque, se vuoi, veniamo. No, ti ho chiamato proprio per questo. Sì. Ecco, dimmi, Franco, sì, io facendo il camionista, ho fatto 20 anni d'estra, a te non interessa, le ho frequentate tutte. Sì, a te non interessano, diciamo, la scissione del Partito Democratico e, come dire, e gli umori tra Emiliano e Renzi, tra Rossi e Renzi. A te interessa, ma questo non c'è dubbio, le dark room e le glory hall, sì, eccetera. Io ho fatto l'estero per 20 anni, le ho frequentate tutte. Sì. E digli alla signora Dinolfi che sì, dalla mia esperienza lui non ci ha mai andato, o credo o non lo so. Scusami Franco, io comunque voglio capire una cosa. Tutte le persone, sì, che venivano scoperte che facevano prostituzione sono state messe alla porta. Vabbè, ho capito Franco, io voglio capire una cosa. Il Glory Hall, l'hai mai fatto del Glory Hall? Sì, certo, a Milano. Ma l'hai praticato da che punto di vista? Cioè come attivo o come passivo? O di qua o di là. O di qua, di tutti e due. Cioè hai praticamente, sì, sì, sì, sì, sì, hai praticamente messo in bocca piselli di sconosciuti, diciamo. Anche quello hai fatto. Mamma. Certo, quando sono belli, perché no? Vabbè, belli non li vedi, vedi quello, solo i piselli, vedi. Cioè, non è che è, vedi... Quello, è quello che succede anche negli scambi di coppia o comunque quando si va in un... Ecco, caro Franco, tu ti sposi adesso con il tuo compagno con cui stai, sì, da vari anni. Sì. Qua, il 10 giugno noi potremmo fare, caro David, i padrini di questo matrimonio. Direi. Sì, no, ripeto, noi facciamo in genere la fattura con l'IVA, più IVA. Ecco, noi ce la facciamo fatturazione più IVA. Dove si svolgerà questo? Dove si svolgerà questo? Sai cosa c'è? Beppe, che ti devo dire? Dimmi. Sarà un matrimonio di froci senza invitati froci, perché non abbiamo amici froci, sono tutte famiglie, abbiamo tanti invitati e cazzo non c'è un frocio. Ecco, ma tra i camionisti quanti gay ci sono? Già te l'ho chiesta questa cosa qua. L'hai già chiesta, ti ho già risposto. In che percentuale? 10%? Ufficialmente nessuno, ufficiosamente tutti, ti devo dire. Beh no, tutti no. Beh, non tutti, credo, non tutti. È vero. Beh, io lo vedo, tutti, cioè, tutti i giorni. Tu dici che tutti sono aperti a esperienze omosessuali tra i camionisti. Sai cosa ti devo dire? Ti faccio una telecronaca dei parcheggi, no? Dimmi. Ogni 15 km c'è un parcheggio e poi c'è un'area di servizio, poi c'è un parcheggio. Sì, allora? Solitamente chi si ferma nel parcheggio e non nell'area di servizio, solitamente è perché gli interessa qualcosa. Ed è assolutamente la cosa più probabile del mondo. Che tu riesci, beh, io faccio sesso con i miei colleghi più che volentieri. Ma non ho capito, tu nonostante il fatto che tu hai un compagno fisso, ti sposi, fai sesso con i tuoi compagni, amici, assolutamente, colleghi, sì, camionisti. Io lo amo alla follia. Però fai sesso anche con altri. Ma dopo 27 anni diventiamo Raimondo e Sandra, secondo te? Franco, il camionista gay, diciamo, sciocca la zanzara, faccio sesso, sì, nelle aree di servizio, nei parcheggi con i miei compagni comunisti. Assolutamente sì. Franco, ciao. Michele, ciao, da Pisa, vai Michele. Buonasera. Dimmi, dimmi Michele. Io sono un tesserato Andos, anch'io. Allora? Ma allora, su alcune cose Adinolfi ha ragione. Il discorso del, lui delle dice società, che è tutta una finta. In realtà si pratica la prostituzione minorile. Allora, sulla prostituzione, lui dice secondo questo, me, lo querelassero. Io non l'ho mai vista. Poi è ovvio che noi l'abbiamo vista dalle immagini delle ieri, è chiarissima la prostituzione. Nelle discoteche etero c'è anche la discoteca della prostituzione e vendono la droga. Questo è in tutti i locali. Però io non l'ho mai vista e non ho mai avuto bisogno di pagare per niente. Sono tesserato, entro perché se c'è una serata da ballare, però Io la prostituzione non l'ho mai vista. Sicuramente ci sarà anche, ma non se ne occupano loro del locale. Potrei entrare anch'io e chiedere soldi a qualcheduno quando entro in un camerino. Sì, ma non è normale che ci sia finanziamento pubblico. Questo è lo scandalo per me. Quello, ecco, quello quella pure, è la cosa. Poi ognuno faccia quello che gli pare. Sono disaccordo con Adinozzi, perché sono gay. Io sono disaccordo con Adinozzi. Però ha ragione. Posso dire quella e anche sul discorso dell'Arci, perché prima era tutto Arci, me lo ricordo. L'aveva anch'io. Vabbè, ma questo è un altro discorso. Lui dice che c'è una guerra. C'è stata una guerra e l'Arci si è voluta staccare. Ma quello chi se ne frega, però, ragazzi, non è che ci possiamo occupare delle guerre tra i froci. Nel senso, però, su quella cosa lì. Adesso sti cazzi, se i froci, che i froci litigano tra di loro, succede come in tutte le... E ti posso dire anche che sono in crisi questi anni. Sono un po' in crisi questi Michele, locali, ciao. Per colpa della tu ci vai nelle dark room o no? Sì, a voglia, ci vado, ma infatti quando lui mi parla... Ma che fai, che fai, le grandi ammucchiate nelle dark piace, room? Io, diciamo, mi limito un po' perché non è che sia così molto disponibile, però mi capita sia... Quando vai lì, vai là, ti butti in mezzo nelle grandi ammucchiate. No, io sono un pochino più... Scegli un po' di più. Io scelgo un po' di più, però ci sono... Le vedo, però è tutta roba libera che non viene obbligato, nessuno non viene pagato. Ma te credo. Cioè, è tutta una cosa libera. Poi il discorso che dici te, che non dovrebbe essere finanziato, sono pienamente d'accordo. È tutto un trucco. Loro per dicono che il finanziamento tasse. È per altre cose. Gennaro, questo sicuro perché le associazioni è tutto un trucco. Sì, è tutta una fregata. Gennaro, Caserta, vai, Gennaro. Cruciano, ma perché non te lo fai pure tu un giretto sui parcheggi? Ma giretto sui parcheggi lo fai te, Gennaro. Fallo tu. Tu sei camionista pure tu? A te non te ne frega quello che so io, però io sono convinto che tu c'hai pure tu il vizietto. Ma che vizietto? Guarda che non avrei problemi a dirlo se avessi il vizietto. Ma tu secondo me lo nascondi a te stesso. Sì, ma tu invece lo pratichi quotidianamente questo vizietto. No, io non pratico nulla. Come no? E sei anche passivo. Sei anche passivo, sei anche passivo. Che bella discussione. Sei passivo. Non la fa rimbalzare la domanda. Sei passiva. Tu, io penso Gennarina, sei passiva, Gennarina. Cruciani. Gennarina. Allora, tu t'accanisci troppo a sta cosa, perché secondo me devi fingere a te stesso. Io, figurati. Guarda, io sono convinto di sta cosa. Vabbè, senti, che devi dire, avanti. Il mio intervento comunque dopo questo era su... Dimmi, Gennarina, dimmi. Su cosa lì? Dimmi, Gennarina, dimmi. Quello che ha intervistato prima. Dimmi, Gennarina, vai. Lucci. Sì, Lucci, che dici? Lucci si dichiara tanto comunista, no? Però è stato comunista. Che deve percepire dalla RAI. Che c'entra? Come che c'entra? Guadagna dalla RAI per fare la trasmissione a RAI. Prima stava media, però si dichiara... I comunisti di solito dovrebbero guadagnare quelli che spesa, no? Senti, Gennarina, pensa a fare stasera come ti devi preparare per essere passiva. Per carità, cosa legittima. Cosa legittima, tu comunque... Tu le fai pure tu certe cose. È il vizietto. Io ragazzi vi lascio in questo vostro derby, diciamo. Tu ormai non dici più le bugie, devi dire la verità intentata che ti fa comodo, capito? Sì, Gennarina, ciao. Gennarina la passiva, ciao, a domani, ciao. Viva i fraci, viva i fraci. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8. Lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. E me faccio i canne, sì. Radio 24. Libera la voglia di fare.